Sei autocitato. È un omaggio. Bene, bene, senza indugio, problemi tecnici su varie piattaforme a parte, andiamo in diretta con La Maledizione di Catta, episodio 69. Da morte. Okay. Congratulazioni. Congratulazioni, congratulazioni a tutti. Benvenuti, bentornati. Vorrei un po' quella risata di Yak registrata. Adesso appena glielo devo chiedere. Regaliamo a Vez la soundbar in cui può mettere tutte le cazzate. Tecnicamente. Che cos'è la soundbar? Ah no, però gag a parte. C'era una cosa che in realtà volevo chiedere. Allora, io mi sono iscritto a Roll20, ma non ho capito come lo devo usare. Adesso mi spiegherà. Non c'entra niente con la soundbar. No, so. Però mi avete fatto venire in mente che dovevo chiedere una cosa e non l'avevo chiesto. Comunque, sono sempre cose che non sappiamo usare, capito? Esatto, esatto, questo è il concetto. Ma a soundbar cosa sarebbe esattamente? No, aspetta, prima di... È tipo un oggetto di plastica con dei bottoni che puoi personalizzare. Però esatto. Puoi metterci tipo i suoni, tipo il beep per censurare, puoi metterci la risata degli altri. Vabbè, ma ci sarà un programma equivalente che si può implementare. Sì, però ora che sei andato lì a cliccare sul programma, intanto ormai la gag è finita. Beh, c'è l'app che fa i rumorini stupidi, che è tipo storica, una delle primissime. Vabbè, ce n'è un botto, solo che sì. Però un'app sul cellulare che la tieni aperta, esatto. Comunque, la tieni sempre lì. Bentornati, tecnicamente, ti benvenuti tecnicamente da Titans and Dragons. Non lo dico più da un sacco. E Trip GDR. Oggi giocheremo a La Maledizione di Catta, la nostra campagna di Dungeons and Dragons, lo sapete, l'episodio è il 69, bene sì. Cioè, tra l'altro queste marchette gratuite, Sheo, cioè neanche ci pagasse la Wizard of the Coast. Cioè. È vero, guardate Sheo come è diventato. Che noi abbiamo pagato. È come tipo fosse sponsorizzato da altre marche che non dico. Poi ha pagato, scaricando. Rega, l'altra volta a sessione non c'ero perché ero in riunione con quelli della Wizards. Cosa hai risolto? Esatto. Quelli della Warlocks. Mi ha regalato una maglietta e una tazza e mi ha mandato a casa. Esatto. Tipo, forse lui è il campione, tipo, abbiamo visto, tu sei un ottimo giocatore, dovresti giocare in una squadra più forte, più parti più forte. Tu parti migliore, con meno insulti razzisti. Sì, non ci avevo mai pensato. Allora, va bene. Saluto i nostri ospiti: Giulio Bosi, il nostro master Enrico Cattabriga, Stefano Gamberoni, now sponsored by Wizards, Warlocks and Rots, Marco Bosi, Edoardo Saladini, in attesa forse di Francesco Arcidiacono. Non ho capito se si arriverà. In teoria c'è. Lavora, sì, giustamente, l'insalata non dorme mai. Allora, direi che... L'insalata respira di notte, letteralmente. Non dorme mai, dorme solo definitivamente quando insieme agli altri 5 kg di insalata finisce nello stomaco di Arci. Catta, tu hai una musica, qualcuno ha la musica da far partire dubito. Per l'eventuale riassunto? Come dubito? Dai i nomi in base alla musica. Sarebbe gravissimo. Ho detto subito, come hai capito dubito? Io ho capito dubito. Ma poi tra l'altro, ascoltando le nostre dirette, ormai mi ascolto il podcast che fra parentesi si andrà ad arricchire nella prossima settimana anche di altri episodi. Come nella scorsa di quelli della menzione di Catta, dove siamo quasi in pari, tra l'altro. E eccola. E non so, la mia voce mi sembra così bassa. Voi mi sentite bene? Sì. Forse sono io che sono un po' così, un po' cupo. Comunque, va bene. Il riassunto. Chi vuole fare il riassunto? Salla! Ma io non c'ero gli ultimi due episodi. Salla! Eccolo, pazzo. Arci, facci sto riassunto. Eccolo, è arrivato per il riassunto. Dai, raga, sono sul water. Cioè, ecco. Il bello della diretta, dicono. Vedete come ci potessero bannare? Ecco la risposta. No, vabbè, sì, che non fa. Avevo sete. La luce era rimasta accesa. Vai, Giulio, allora. Ok, Riassunto, abbiamo detto. Sì, riassunto, cioè, Giulio. La maledizione di Katta. No? La maledizione di Katta, sì. Bravo, Arci. Aspetta che Arci sta chiedendo se oggi c'è Tai. Bravo. Allora, eravamo rientrati nel tempio, abbattendo i teschi e permettendo a il gruppetto di tizi che avevamo precedentemente ucciso, comunque in qualche modo maltrattato, di andare per la loro strada, inseguiti dal golem d'ambra. Noi abbiamo continuato l'esplorazione, quindi del tempio in Santa Pace, finché non siamo arrivati in questa stanza nascosta, dove abbiamo trovato un lich che sembrava abbastanza smemorato. Dopo avergli fatto riprendere memoria con un incantesimo, credo, boh, tipo ristorazione, no? Sì, io avevo la pergamena. Restoration. Ah, sì. Lesser Restoration. E basta. Poi è arrivato Arce e ha detto: ah, sì, io ne ho 10 che posso lanciare schioccando le dita. Ma no, perché Arce e Salla sono ancora dispersi. Race e Pat sono ancora. Cioè, noi siamo ancora fermi perché sto stronzo non può passare le palle di fuoco. No, in quel momento eravate tutti insieme. Ah, ok. Purtroppo. Quindi niente, abbiamo iniziato a parlare con questo Lich che non mi ricordo come si chiamava, però Exatander. Ah, è vero, Exatander. Che in pratica è qui e fa da guardia al tempio, ha conosciuto Strad, l'ha aiutato ad acquisire conoscenza. E poi niente, abbiamo iniziato a parlare e ci ha iniziato a fare. Abbiamo iniziato a seguirlo nel giro guidato del il tour, insomma, come tour operator del Tempio d'Ambra. Esatto. E, diciamo che eravamo tutti abbastanza contenti di questa cosa, anche perché con lui in presente le difese del Tempio non si attivano, quindi lo possiamo fare tranquillamente girare. E anche il paladino comunque apprestato a fare dietro al Lich, perché è la prima persona che ha iniziato a rispondere alle sue domande. Dopo l'ho ristorato io, mi sa. Dopo sì, sì. Mi ricordavo l'avesse fatto Arci, ma vabbè. Attenzione, Sceo. Oddio. Ma il punto è che si è prestato a seguire un Lich, perché comunque era la prima persona che dopo 68 episodi rispondeva alle domande. È vero, product placement. Sarebbe gravissimo se si vedesse fuori la tazza. Con anche considerando i miei compagni, tra l'altro, tra quelli che non mi rispondevano. Dimmi. Quindi niente, Xatander ha iniziato a farsi fare questo tour, ci ha portato in giro, abbiamo blablato dei poteri oscuri. Lui ha detto che Strad ne è uno, ma che noi possiamo prendere gli altri se vogliamo combatterlo. E vi ha detto un sacco di cose interessantissime. In realtà ci ha detto delle cose anche abbastanza importanti, tipo che chi prende un potere è come Si è detto che Strad è il campione delle potenze, quindi se uno vuol prendere il suo posto deve sconfiggerlo e diventa il campione delle potenze. Sì, anche Strad non può morire, a meno che uno non lo sconfigge. Cioè, se uno lo sconfigge, ok, la maledizione si spezza momentaneamente, si può andare via probabilmente da Barovia, ma lui ritornerà prima o poi. L'unico modo per sconfiggere in maniera definitiva è prendere il suo posto, ma questo non è un grossissimo problema. Ma questa era già la nostra idea iniziale. Sì, in realtà quello è importante, nel senso che comunque lui, diciamo che di base ci ha detto che sostanzialmente lo dobbiamo comunque sconfiggere, cioè non è che c'è un modo alternativo. Esatto. E però ha anche detto che sostanzialmente chi prende i poteri dei sarcofagi dopo praticamente è legato a quei patroni lì, praticamente, se ho capito bene. Diventa una sorta di schiavo di quella divinità, di quella entità. Un suo campione che porta il verbo della cosa. Però, di fatto, vi ha spiegato che queste entità si nutrono in modi diversi. Esatto. E quindi ognuna ha praticamente il suo, come dire, il suo rapporto, esatto, particolare. Tipo... Farà che il distruttore vorrà che io distrugga delle cose, il che è comunque quello che faccio già di solito. E infatti, molte banalmente, una volta che hanno conferito il dono a qualcuno, sono tra virgolette anche contente così, perché sanno che ciò che implica possedere il dono, quindi sia il potere che conferisce, sia l'effetto collaterale che implica, sarà sufficiente a loro a creare quel caos o generare quella distruzione o quelle cose particolari che li nutrono. E gli esseri che sono rinchiusi in questo tempio sono a stecchetto da secoli, quindi sono anche, insomma, molto più affamati e più, come dire, propensi a elargire generosamente i loro doni pur di avere qualche sostentamento in cambio. E quindi sì, per ricapitolarvi, quelli che avete scoperto l'ultima volta, per chi non c'era... Sì, ci aveva fatto vedere altri poteri, che però non erano piaciuti. Esatto. Beh, la puntata è finita con Atanas che ne stava per accettare, esatto, uno. Io ne ho accettato uno a fine puntata. No, no. Quindi adesso vedremo che cosa succede. E che potere abbiamo preso? Savnok, allora, l'inscrutabile. E gli altri che avete scoperto e li avete scoperti al... Che sarà particolarmente divertente. Allora, dove sta Savnok? Eccoti qua. Savnok era nella sala di Maverus insieme a questi qua. Ok, però perché sono quattro? Chi era il quarto? Vabbè, comunque gli ultimi che avete, con cui avete parlato, erano Sicane, l'affamato di anime Suicune. Mm-hmm. Suicune, che, quello era quello che dava il potere del cielo. Entei e Raikou. Sicane diceva: vi offro il completo controllo sulla morte, un grande potere ma a un prezzo, e ogni volta che lo userete, ci sono monete d'oro che noi non abbiamo, esatto, e ogni volta che lo userete voi sarete gli esattori del prezzo che andrà pagato. Quindi vi propone di diventare degli esattori delle tasse. La morte, sostanzialmente. Perfetto, è un lavoro fisso. È un posto fisso. Posto fisso, è vero. Dipendente pubblico. Perfetto, non vedo l'ora. Posto. Poi, che aveva... con cui aveva parlato Atanas era appunto Savnok l'inscrutabile. E vi diceva che mi potete sentire solo perché vi permetto di farlo. E nessuno potrà mai leggere o distruggere la mia mente, e questo potere può essere vostro se lo accettate. Poi c'era il sarcofago di di Tarakamedes, il Wyrm delle tombe, e diceva: vi offro il dono di un potere oscuro, con esso i cieli saranno vostri e non troverete alcun limite. E poi l'ultimo era il sarcofago di Shami Amure, la signora delle delizie, e vi diceva che anche lei viaggiava per il mondo e tutti i desideri erano alla sua portata, e la mia parola era abbastanza per ottenere qualsiasi cosa che desiderassi, e vi chiedeva se volevate diventare persuasivi come lo era lei un tempo. E poi state... Se fosse una campagna normale lo toccherei, ma visto che ormai l'unica cosa che posso persuadere è un lich di merda, non lo tocco. Oltre al fatto che non puoi dire le cose, non puoi rispondere. Beh, alle domande. Non posso rispondere alle domande. E rispondere alle domande, quindi quello che dice lui di sua spontanea volontà non è influenzato. È ultra persuasivo su delle cose che non c'entrano niente. Comunque, no, sì, la puntata precedente è finita con io che tocco il sarcofago di Savnok e accetto. E accetto il dono. Ma Vezzo non dice niente. Non lo so, che cazzo accetto. Con tutti adesso mi tocca e non dice niente. È il suo pet, il no, suo no, io no, no, io nel senso, io ci ho provato la prima volta, ho detto ragazzi, non fatelo, potrebbe essere pericoloso, eccetera. Dopodiché voi avete fatto tutti a me, io ti ho dato la calca. Beh, tipo così. Tecnicamente l'ho detto prima che tu. Poi nel momento in cui l'ho toccato prima che tu. Nel momento in cui c'è il tipo che fa "Ah, sì, sì, e va bene, sì, è l'unica cosa, dopo sarete no, no, potete farlo, però sarete ecco degli schiavi, come schiavi sarete schiavi", allora lui fa "ok, allora ancora di più", io cosa ti devo dire, cioè non posso dire niente. No, il punto e dico vabbè, no, ormai. Il punto della decisione è che avendo dato la testa della bambola a Strad mi può divinare, questo qui mi promette che sia impossibile farlo, allora, e quindi accetto dato il potere. Accettando questo dono, l'accettuario, boh. In realtà si sta anche sacrificando beneficia. Per l'amicizia, il cliente, in un certo senso. Il cliente beneficia dell'incantesimo Mind Blank. Sei ancora più demente, quindi. No, sono gli altri che non possono perscrutare la mia mente. Perché non c'è un cazzo. Sì, ma Giulio, tanto nemmeno tu sapevi che cazzo stavi facendo. Il prezzo è la stupidità, cioè, però nessuno può divinare quello che fai. Dopo, no, nessuno ti può divinare se sei un vegetale. Esatto. Può penetrare nella sua mente. Vedo solo il buco. Oh mio Dio, è impossibile! Cosa vorrà dire quella traccia di bava? Mind Blank è un incantesimo che ti rende indivinabile. Però non ti ha ancora detto... Il prezzo di toccare quello che ho toccato io, che il prezzo del sarcofago è che mi si sciolgono gli occhi. Non lo so. Questo non l'avevo ancora detto, comunque è vero. A me, so io. Qualcuno fa metà gaming. Aia. Cosa vuol dire gli si sciolgono gli occhi? Si sciolgono gli occhi. Vedete gli occhi di Atanas che colano, cominciano a colare. Vedi che dalle loro orbite. Esatto. E al posto degli occhi gli rimangono le orbite vuote. È ottimo, piacevole. Vabbè, ma riesce a vedere lo stesso o meccanicamente a svantaggio? Lui vede lo stesso. Vede lo stesso. Vabbè, io gli faccio, quante sono queste? 3. Vabbè, quindi è solo ancora più demoniaco del solito. Sì, e manca l'insulto, Giulio. 3. Giulio, tutte le bazze comunque. Vero. La fortuna... Salute gli audaci, no? Ha solo perso gli occhi ed è uno stronzo con tutti, però... ho capito, è stato un periodo che aveva la faccia di un cane, cioè nel senso, direi che è un grosso miglioramento. E aveva anche le branchie, però in realtà era utile. Esatto. Ok. Vabbè, e questo è... il sarcofago di Savnok. Ok. Devo provare. Comunque, Ex Hunter mi ha anche promesso che mi fa copiare gli incantesimi. Sì, sì. Dopo quando c'è la verifica, Marco, vediamo. Vabbè, comunque, in realtà, voi vedete che io tocco il sarcofago, poi mi giro e mi colano gli occhi, mi si sciolgono. E tipo, intanto fa la faccia tipo con la lingua. Scappiamo terrorizzati. Ecco, dico tutto. È la naturalezza con cui le dice. Vabbè, niente, vedete che mi colano gli occhi. Non sa se sono infetto. Io dico, non so perché non c'è scritto che fa male, c'è solo scritto che ti colga. Magari lui non se ne accorge neanche, cioè lui vi guarda e tu siete tutti e lui che c'è? Beh, come al solito, quindi che c'è? Esatto. No, magari glielo dico Giulio, hai un po' di occhi sulle mani. Hai un po' di cose. Quello lo vedo, cioè il liquido che mi è colato lo vedo. Facci vedere l'insalata. Cioè, bene. Vabbè, io dico Dio, ma quanti altri orrori? Ma non mi sembra installata quella. Volete affrontare? No. Prima di capire che se dobbiamo è la via sbagliata. se dobbiamo abbattere Strad, questa è la via. Ma non puoi aspetta che vedo se... Nobile Bardistan, non c'è errore più grande che il dominio incontrastato di Strad. No, perché non va? Ok. Ah no, questo è vero. Pronto? Il... E niente. Vabbè, io te lo dico, Varistran, Strad mi poteva divinare, adesso non può più farlo. Beh, di certo anche per noi sarà difficile capire quello che pensi, ma già prima lo era, quindi esatto. In effetti non è un gran cambio. Allora, vediamo se riesco a muovere. Non può comunque divinare più gli altri. Parla con me o con te, non capisco dove guarda. Con chi? Ma verrai con me, Giulio? Ho detto Vardistran prima, non stavo guardando. Quindi... Vardistran, è così fa. Giulio, io sto di qua. Atlas, sto di qua. Oh, ma io mi vedo, eh. Io mi vedo. Atlas, perché non stai le scale? Io mi vedo. Sì, quando dire. Uno può accompagnare i ciechi, uno di quelli. Ma non sono cieco, stupido barbaro. Aspetta, allora, il... dopodiché il vostro tour prosegue. E il... se fossi diventato cieco, avrei sbloccato il sesto senso. No, cos'era? Il settimo senso. Tipo Sirio il dragone. Che è molto fortunato. Giulio, se fossi diventato cieco, intanto parla contro un muro. Giulio. Dio, no, non voglio questo. Dopodiché, Exetunder vi porta al piano di sopra per condurvi in una delle, nell'ultima stanza, nell'ultima sala laterale dei sarcofagi. Per raggiungerla andate a percorrere l'ala destra del tempio, vedete il corridoio speculare a quello dove dall'altra parte c'erano i teschi fiammeggianti. Questo è particolarmente rovinato e pieno di crepe, ci sono state degli smottamenti e dei crolli. Arrivate, lo percorrete, arrivate nella stanza dove dall'altra parte c'era la sala del banchetto, e questa qui vedete che è stata mezza sepolta da una frana. Il percorso poi vi porta sul soppalco che sta sopra l'ingresso di quella che da lontano avevate visto essere... Stendiamo un tonfo e c'è Giulio che è volato giù. Giulio! la sala del tesoro, che adesso sta sotto i vostri... al piano di sotto. Entrate in una sala che è speculare a quella dove c'era la statua con l'incantesimo di simpatia che obbligava chi falliva il tiro salvezza ad adorarla all'infinito. Ah sì, io l'ho fallito. Esatto, molto divertente è stato. E anche qui c'è una statua simile, ma vedete che questa è stata distrutta da qualcosa di grosso. E tutti i candelabri che ci sono stati... sono stati distrutti e spaccati. Come al solito c'è una porta segreta. Oh mio Dio, ci siamo raddoppiati! Che porta ad una rampa di scale verso il piano inferiore. Andiamo al piano inferiore. Oh, aspetta, è quella porta nera? Chi è che ha quella torcia che spaventarci? Cos'è che ha detto Giulio? Torna al piano sopra. Torniamo al piano di sopra. Quale porta nera, Giulio? Quella porta nera? Tutta nera? No, non c'è la cosa nera a destra. Vedete stanza tutta nera. Se chiedete che cosa c'è di là, Exetunder vi dice: ah, quella lì è l'aula magna. C'è vabbè, facci vedere un secondo. Ci sono gli spalti. Bello. Dove bello. Mi ricorda l'aula di fisica dove Righetz si chiama, esatto. Ciò che avremmo preso tutti tra il 2 e il 3. È vero, ci sono i cosi laterali. E no, c'è il leggio dove si faceva lezione, e poi c'è una lavagna con dei segni cancellati. È pieno di polvere. Viviamo il giro completo, cioè il tour. Abbiamo pagato per sto tour, cazzo. Non esatto. È che adesso ci... Hai pagato cosa? Con una pergamena della Restoration. Va bene. Volete perlustrare di più questa stanza? O volete... No, era solo così. Curiosità. Ok. Non volevo niente, questa era la stanza del boss finale. Arci nel dubbio tocca anche le panche per vedersi gli danno. Non volevo patacche nere. Vabbè, sugli occhi. Quali patacche nere sugli occhi? Però mi immagino fra qualche mese, un anno, su un giornale, ragazzo buttato fuori dal museo, toccava tutti i sarcofagi. Vabbè, lì vicino a casa sua ci sono un po', ce n'è qualcuno che sta lì sotto il pavaglione. Avete finito di dire cacate? No, lo sai benissimo. Se solo tu lo puoi dire, Arci. Esatto. Non è che è l'esclusiva. Allora, arrivate qua. Cosa c'è qua? 33C. Questi sono degli altri. Colpito affondato. Esatto, qui c'è la sala di... Ah, la sala di... spettrale. Sala di... No, ci siamo, la tua. Ah, ma sala dove è esploso? Dove è andato? Ha detto che riavviava tutto perché si stava impallando. Perché stavamo sul cazzo, voleva vedere se tornavamo più simpatici. Troppe descrizioni, gli si è impallato. Esatto. Dai, questa stanza. Ma è solita. XXX Master 69 l'ho visto adesso, scusate. Aspetta, mi ha caricato anche di là. Siddo a cool. Eccomi. Arrivate alla sala spettrale. Siddo a cool. Fa un po' schifo, sala, internet. Non sono ancora finite le descrizioni. Spiace. No, ma è che non so perché è un paio di giorni che internet è un po'... Ma come? Streaming in pausa? Sì. Perché? Allora, è tornato. Più in pausa. Vabbè. Quindi, altri sarcofagi. Okay. Altri tre sarcofagi. Esatto. Arrivate alla sala spettrale, questa sala, oltre ad avere le mura in solito costituite da ambra, ha un pavimento decorato con un oscuro marmo verde. Ci sono tre sarcofagi d'ambra nelle loro alcove e notate al centro della sala due umanoidi dall'aspetto ferino. Hanno una pelle grigio molto pallida e vi fissano con tre occhi arrabbiati. Ciascuno. Due sono pensavo normali. Avessero tre occhi in tre. No, sono in due. Due sono normali e il terzo è un occhio senza palpebre, quindi sempre aperto e accecato dalla cataratta. Giulio. No, io ho proprio le orbite vuote. Entrando nella stanza... Gli occhi che hanno in più loro sono i tuoi, li ho trovati. Vedete, me li riprendo. Che ce ne sono altri cinque che sono aggrappati alle pareti e al soffitto. Come Xetander entra, questi si allontanano e si arrampicano anche loro. Ma cosa sono? Sono dei ghast. Una domanda, se io mi metto delle robe nelle orbite degli occhi, vedo, continuo a vedere. Come se ti mettessi... Comunque sta domanda me la sarei aspettato da Arci, non da Giulio, se posso essere sincero. Scusa, non c'era la cosa che mettevate le monetine negli occhi dei bambini? No. Quali bambini? Non erano bambini. Sì, in realtà sì. Tecnicamente non erano visibili, Lex. No, era un vecchio che ci ha insultato dalla strada. In una inquietante campagna che io ho condotto come master a Giulio e Arci quando eravamo giovani, che praticamente loro prendevano questi bambini, gli mettevano delle monetine al posto degli occhi e poi tipo li rendevano invisibili in modo che urlassero. Quindi non c'era nessun senza bambino. Che qua si potesse vedere. No, no, comunque l'abbiamo fatto solo una volta ed era uno che ci aveva lanciato dell'acqua da una casa. Era un vecchio che ci aveva lanciato. Quello Giulio era quando si è vero. I triboli nei piedi quando scappavi dal fight. No, quello è stata la prima sessione ed era un'altra cosa. E quel vecchio ci siamo scappati perché era un veterano molto più forte di noi. Ah beh sì, ma quelle vezze che quando entravi in una casa per uccidere qualcuno era un barbaro di livello 20 che apriva la porta. Una volta, la prima volta sì, era per provare un sì, po' a sedarvi, poi ho capito che non aveva senso. Ok, tizi, una monetina, vedete, sono questi qua. Tengo, stregone di livello 30. Ah, guarda che sì, cos'era? Tu eri il monaco tipo GT anche? Sì. Gizzerai. Invece era uno stregone ai guanti. Allora, vi facevo fare tutto, dai, avevate fatto una mega associazione. Oh, prossima campagna li rifacciamo. Con le scommesse clandestine sul ring. È vero. Vabbè. In questa stanza ci sono, vi dice Z-Thunder, racchiusi i poteri oscuri di Drizzlash, il ragno dai nove occhi, Dalverdnar, colui Brucio. Che ha molti denti, esatto, Zantras, il creatore di re. Oh, prendi quello che ha gli occhi, Giulio, così li recuperi. Glieli mette tutti in tempo. Perché ho troppi occhi. Voglio chiedergli come mai questa stanza è diversa dalle altre. In che senso è diversa? È spettrale ed è... No, è il nome della stanza, come tipo, che ne so, la sala rossa o la sala blu, cioè il nome della stanza. Non per forza sono di quel colore. Beh, il colore è più o meno, come dire, il tipo della sala ricorda un pochino il tipo di poteri che si trovano all'interno. Che tipo di poteri? Dai, vai, prendi uno. Appunto, ad esempio, in questa sala ci sono i poteri, Marco, come dire... deve prenderli. Stavo per dire oscuri, ma in realtà sono tutti oscuri. Tipo nella sala rossa c'erano quelli che ti aumentavano la forza, i punti vita, quella, la stanza della gente incazzuta che mena le mani. E nella stanza prima, ad esempio, c'era la gente che era più, come dire, sull'interazione sociale. Ma non per forza, in realtà. Boh, sì, sono un po' a caso. Va bene. Vorrei toccare il creatore di re. Allora, il creatore di re Zantras. Zantras ti parla. Dice: io sono conosciuto come Zantras, creatore di re. Grazie. Mi hanno chiamato così perché posseggo il potere di darti l'influenza e l'aura di un re. Lo tocco. Io sento che ti farebbe bene, ma che se accetti non ti dovrai mai arrendere alla volontà degli altri e dovrai superare quella di chiunque altro. Lo vedo bene Giulio con questo. Infatti aggiunge anche come quello lì vicino a te. Tolgo la mano e dico a Vardistan che secondo me dovrebbe accettare questo patto. Tanto ce l'ha già, voglio dire. Che cosa? Che uno ti rende re? No, tu hai già quello che non ascolti nessuno e continui per la tua strada tutto, che è il malus di questo sarcofago, apparentemente. Beh, va detto che voi avete la cosa che non cagate mai me, quindi siamo... Vabbè, ma è solo su te relativo. A parte che, ok, non ascoltiamo quello che dici, ma alla fine... Cioè, alla fine? Non ascoltiamo quello che dici, però facciamo quello che vuoi. Ma è vero. Di no. Oddio, non mi ricordo una volta. Abbiamo consegnato Irina a strada, non mi pare. Sì, perché ve l'ho tolta dalle griffie. L'abbiamo uccisa, non mi pare. Vabbè, perché se la sono portata via. Cioè, che discorso è? Vabbè, comunque dico a sfortuna no, guarda. So che molti dei nostri ormai si sono corrotti col male di questi poteri. Io spero e prego per loro che possano ritrovare la propria anima un giorno. Ti sconsiglio, sfortuna, di inserirti. Prega per noi peccatori. Di essere diventati amiconi comunque. Ti sconsiglio, sfortuna, di anche tu di entrare in questa caccia ai poteri, perché le conseguenze potrebbero essere molto più nefaste di quello che i nostri amici ritengono. Come ci ha fatto presente il nostro anfitrione. Io spalleggio sfortuna e aggiungo che, dai, Bardistan, però sarebbe perfetto tornare a Kresk, a quale tu sei capo. Da re. Vabbè, cioè, sarebbe... Non libererai mai in Barovia senza questo atteggiamento. Non ho alcuna volontà di diventare re, solo di permettere alla sfortunata gente di questo posto di poter abbandonare queste terre desolate. Non più Ser Vardistran, ma Re Vardistran. Fantastico. E rivolgo una parola a Exatander, una domanda a Exatander. Gli ti chiedo, ma perché non mi ricordo se gliel'ho chiesto l'altra volta, onestamente, e esiste la possibilità di diciamo tornare indietro, cioè dopo aver accettato un dono, esiste la possibilità di liberarsi dal vincolo, che tu sappia? No, non sono a conoscenza di alcun modo per spezzare l'accordo. Ho capito. Tocca a Navara e senti cosa da dire. No, ti ringrazio. Direi che, anzi, se forse conviene cercare gli altri. Io gli do tipo una spallatina perché finisca contro il sarcofago per sentire cosa dice. Ok. Spintare la leggera che sono... toccare. Qualcuno tocca qualcos'altro? Ci sta, quindi mi fa toccare il sarcofago. No, lo faccio davvero, non è una gag. Ah, va bene, okay. tocco il sarcofago. Esatto. appena, guarda che non sono proprio un fuscellino io, No, senti la... devi un po' impegnare. Spagati contro il sarcofago, però, chiaro. Senti la voce di Zantras che ti parla. E con ammirazione ti dice: tu sì che hai la capacità di portare l'ispirazione nel cuore della gente, potresti beneficiare grandemente del dono che ti posso offrire, avresti tutte le genti che penderebbero dalle tue parole, finalmente potresti ispirare il coraggio in intere popolazioni, potresti diventare un'icona di virtù e l'esempio per molti. È quello che hai sempre sognato. Invece di quello che hai sempre sognato. Ah, ho preso la scheda di Garro, ecco perché faceva schifo. E gli dico: nessun potere oscuro potrà uguagliare mai la forza del dio del sole. E ritraggo la mano. Dai, che hai venduto il tuo simbolo sacro. Sì, esatto, hai dato via il tuo medaglione per un menù medio del menù. Volevo cercare di tenere l'arma, ma non è sfondanzionato. Tra l'altro è dato oscuro, ma quest'arma magica più uno ne vale tutta la mia fede. Va bene. Qualcuno tocca qualcos'altro? No, sono a posto. Ok. Dai, sentite gli altri, dai. Li senti tu? Ma no, allora. Mi piace questa cosa. Scusa, Marco non ne prende nessuno? Io servo già al mio padrone, cosa vuoi? Pazzesco, allora. Cioè, lui l'ha già preso. Lui, è, Arci... lui è da inizio campagna che l'ha preso. Gli non li prendevo o li prendevo tutti. Sono... Beh, Arci, magari due sono buoni. Sì, ma più ne ho, più cozzano tra di loro. Quindi meglio evitare. Si è accorto dell'errore. magari no, fare, dai, non fare il timido, Arci. Non me ne frega niente di ridurmi a icona, iconizzarmi sul desktop, non me ne frega niente di quella roba lì, quindi... Ma no, però ci sono altri due sarcofagi che non sapete cosa voglio, cosa fate. Magari ma toccali. Vabbè, Vezzi, ma se per richiedere informazioni... Vai, andiamo avanti. Basta toccarli. Ok, uscite dalla stanza, quindi. Aspetta, no, dai, sentiamo. Visto? Quindi c'era Zantras, Drizzlas, E questo che era Dalvernar. Ah, i denti. Quello tocco Dalvernar. Dalvernar. Tocco Bernard. Ah, dice... Analisi. Anzi, balbetta per tipo una puntata. Io ero un negro. No, spoiler. Ti chiede, ma quante vite hai vissuto? Ah, vedo, posso percepire la tua linea della vita. E ce n'è solo una, ma ce ne potrebbero essere... Ah, e non ce ne saranno altre per te, a meno che tu non accetti il mio dono. È tutto qui. Io potrò darti un assaggio di immortalità. Mi lancio sopra e lo limono. Lo sto... Eccolo! No, ho capito che si cotta da colore. Datemeli tutti! Ah! Immortalità, dici. Aspetta, chi l'ha toccato questo? No, questo è Marco. Marco si sta parlando, però improvvisamente viene tipo buttato a terra da un tirannosauro. Da un gorilla. È mio, sono mio. Tre stacco, volte. Stacco il sarcofago, catta e lo metto nell'inventario. No, vabbè, in realtà non sentiamo niente di quello che sta dicendo Marco. No. Quindi una immortalità. Di un assaggio di immortalità. Gourmet. Un assaggio. Gourmet. Potresti essere immortale finché non muori. Questo è il potere. Pazzesco. E questo mi potrebbe proteggere. Ah, scelto la cazzata. Da qualsiasi tipo di morte. Ti potrebbe proteggere? Da qualsiasi tipo di morte. Da qualsiasi tipo di morte. È come l'assicurazione, dipende. Avrai. Cioè, se c'è dolo da parte tua, no. Avrai il potere di vivere molte vite. Mera, ti reincarna di brutto in un tipo di un topo. Nice. Che secondo me è così. No, lo accetto. Sì! Wow. Ti sconsiglio di accettare. Io poteri. Ho già un padrone. Ti sconsiglio di accettare poteri. Tipo, tipo mi sta ascoltando, tipo, tocca. Siccome io il creatore di re. Boh, ma diventare immortale potrebbe essere un modo per sfuggire ad altre cose. Tutti e tre. Essere paladino nella Barovia non è per niente stressante, lo dice da 17 anni. Il beneficiario di questa dona arrivo, intanto dico quello di sfortuna. Beneficiario di questo dono si auto-reincarna quando muore. Boh, bellissimo, cioè immortale su sé, cioè fortissimo questo. Bello, però una domanda tecnica. Qui le anime rimangono intrappolate. Si auto-reincarna vuol dire che che è come se fosse bersaglio dell'incantesimo Reincarnate, che immagino abbia tradotto come reincarnazione. Quando accetta questo dono, compaiono tre piccoli teschietti sul dorso della sua mano. Tre piccoli testicoli sul dorso della tua mano. Ok, quindi ce la può utilizzare tre volte. Di Giulio. Che c'è le vite. Il nuovo corpo compare entro 10 piedi da quello vecchio, se muori. Se, o quando muori. E tre piccoli testicoli sul dorso della mano, no? Capito? Cioè ti se segue? Muori, senti qualcosa in bocca, come un corpo estraneo. Che piacere. Mm. Ma Marco è già malvagio, giusto? Sì, sembra di sì. Sono un troll malvagio. Per questo sto cercando di farti corrompere. Marci ancora non è malvagio. No, perché ha passato di salvezza. Dai, Arci. Sfortuna. So. Quella cosa nella tua bocca è un dente che si è staccato. Poi un altro. E poi un altro ancora. Beh. I fratelli vostri sono da finire. Dio, dopo qualche minuto perdi tutti i tuoi denti. Dove? Non vedo niente. Qua. Ma io ero già un vecchietto. Allora. Vabbè, ora sei un vecchietto apposta. Senza denti. Ah, ti cade la dentiera e non si rimette più. Ok. E Spatk, tu toccavi il terzo. Sì. Che è il sarcofago. Apri la bocca, Marco. Come minimo che mi cado dalla palla. Uso Silent Image per farmi venire un sorriso abbagliante. Sì, prego. Sì, prego, però si vedono i denti. Tre file di denti, giusto per... Allora, aspetta che ce la devo fare. Allora, il sarcofago di Grislash, il ragno dai 9 occhi. Ti dice: un mortale come te è sempre limitato al terreno. Non ti piacerebbe estendere i tuoi orizzonti ai muri e ai soffitti? Ma poi ragni, piacerebbe. I ragni lo possono fare, non lo sapevi? Perché non potresti anche tu? Il loro potere è tuo per essere preso. Devi solo allungarti per raggiungerlo. Un'inculata, ci vedi tu? Beh, in realtà non ho già preso. Visto che puoi diventare un ragno, mi sembra un po' un'inculata. Sì, Leandro, come se il barbaro non dovesse usare le ire per andare in verticale. Sono solo curioso di vedere se mi crescono 9 occhi in testa o 9 testicoli in bocca. Però vabbè. Solo per dire a Giulio, poi un po'. Esatto. No, vabbè. Poi l'occhio. Allora, questo qua però lo racconta gli altri. Quando ti costa un occhio della testa puoi pagare. Atta. Come? Lo racconto agli altri. Ok. Gli faccio presente che se toccano il sarcofago gli vengono 9 occhi e faccio l'occhiolino a Giulia. Ma lui non lo vede. Ecco. E posso Ma per me non è cambiato nulla, perché io ci vedo come prima, semplicemente. E noi ti spotteremo perché non ci crediamo e quindi diciamo, ah sì, sì, ci vedi. Finta di vederci. Ho improvvisamente sono diventato, non so, ho un sesto senso e vedo con un terzo occhio, se no non vi spiegate come io faccio, se non ci vedessi. Atalas, con chi stai parlando? Non diceva niente sui denti, il suo nome era... Ma quindi ora cioè, Marco parla così. Sì, dovrebbe. Dovrebbe parlare così. In teoria, cioè anche in pratica, il suo nome era Dav Lernar, colui dai molti denti, evidentemente. Immagino. Per la sua, come dire... Immagino tipo Jumanji, sostentamento. Tocco il sarcofago, vuoi una mano? Sei mal ridotto? Sei fortunato? Ne abbiamo 8. No, tu devi accettare questi doni. Certo, mi sembra un'ottima idea. Ah, congratulazioni. Fammi la prova di saggezza. Esattamente un minuto prima lui ti aveva detto dai, non accettare. Perché io? Non l'ho accettato. Non l'hai accettato? Come non l'hai accettato? No, raga, non ho che cazzo d'oggetto a fare, scusa. Vabbè, lui può diventare un ragno quando vuole. Hai ragione. Vabbè. Devo tirare lo stesso il dado, Katta, no? No, no. A sto punto facciamoci portare nella parte più interna del tempio. Sì. Dai. Tornate sui vostri passi. Dov'è? E vi riporta nella sala dove c'era la biblioteca e da dove partiva questa scala a chiocciola che va verso il basso. Mm-hmm. Andiamo. Lui molto, quindi, come dire, a rigor di logica noi capiamo che siamo sopra dove è l'altra compagnia. Sicuramente. Noi l'abbiamo vista andare dietro la statua, quindi qua sotto. Quindi saranno lì sotto. No, l'avete vista andare in una stanza proprio sotto a dove eravate voi. Vabbè, non sappiamo poi se si è addentrata o meno, però noi sappiamo che al piano di sotto, più o meno dove siamo noi, ci sono loro, giusto? Sì, sapete che sono entrati di dentro, esattamente sotto a questa parte qua, e dopo che non sono entrati, scusa. Sì, dopo che sono entrati appunto dietro di loro è arrivato un golem. E quando ci siete ripassati, silenzio di tomba. Io ho lanciato una freccia a Kevin. Tu avevi lanciato una freccia a Kevin. E questo ben primo. Come? C'è ancora silenzio e lontananza, si può dire qualcosa. Sì, sì. Se vuoi tiro un perception. Silenzio di tomba, non c'è bisogno di tirare. Lo prendere più volte. Più volte, no. Però puoi prendere diversi, come Arci insegna. No, volevo sapere a chi potevo rincarnare tre volte e poi facendo di nuovo. Scione è solo uno per ora. Sì. Beh, ma questi non mi piace, almeno. Bene, dai, Exatander, continua a... Exatander. Finiamo il giro. Mi porta qui e, come dire, molto orgoglioso, dice: bene, siamo giunti all'ultima parte del tour. Dai. Sotto questa scala ci sta la sala più importante del tempio, dove sono stati racchiusi i poteri più oscuri. Altri poteri? Più forti. Minchia, siamo una sessione di shopping. Questi sono gli ultimi e sono le più grandi conquiste di maghi che è la cosa più vicina che abbiamo a livellare. Esatto. Abitavano. Cioè, sono rimasti solo i poteri da avere, poi se no... Questo è vero. Vi dicevo, si sono racchiusi tre poteri oscuri. Scusatemi, ma non vi accompagnerò in quest'ultima stanza. No, perché Exatander, dai, ti prego. In quanto appunto uno di questi poteri oscuri ha, diciamo, con uno di questi poteri oscuri ho un conto in sospeso ed è meglio che non mi faccia vedere nelle sue vicinanze. Con chi, se posso chiedere? Oh, voi non ve ne dovete preoccupare, perché è quanto è estremamente riservato con chi non ha la capacità di comprenderlo. Quindi se voi proverete a interagire con lui non sentirete nulla, ma non pronuncerò il suo nome in quanto lui si nutre proprio di questo. Astur. Astur. Cioè, sì, scusami, non ho capito, ha detto Voldemort. La mitologia pop è piena di gente così. Cioè, ha detto Bloody Mary. Lui si nutre di questo, della conoscenza dei nomi e pronunciare anche solo. Ah, lui è Vardistran. Vardistran, vieni qua dentro. Okay. Giochiamo insieme. C'è la conoscenza? Non ho capito. Questo potere si nutre quando con i nomi di cui viene a conoscenza. I veri nomi, ognuno di noi ha un vero nome che va oltre a quello che risulta da documenti anagrafici, e la conoscenza di questo porta il chi ne viene chi lo conosce, chi lo impara, ad arrivare anche ad esercitare il controllo e un certo potere sulle persone che ha conosciuto. E questo potere oscuro è stato quello che mi ha permesso di arrivare a questa veneranda età e mi ha permesso di accumulare tutta la conoscenza di cui io ho adesso, di cui sono a disposizione. Ah, quindi lui può darci il feedback? Lui chi? Ex-Thunder. Sì. Ah, lui mette 5 stelline perché... Ah, vero. Allora vado a toccare. Però appunto dice il solo... delle creature con grandi poteri hanno la capacità di interagire con lui. Ma tu adesso che cosa farai? Tornerai nel tuo esilio? No, io continuerò a stare qui per le mie stanze e a condividere la conoscenza con chi è desideroso di apprendere. E non preferiresti forse imparare nuove conoscenze aiutandoci a sconfiggere Strahd per vedere cosa succede? Assolutamente no. Tutto quello di cui ho bisogno è qui, e indica i suoi scaffali pieni di libri di incantesimi. Ma non mi frapporrò al vostro destino, in quanto a me interessa solo condividere la conoscenza, e grazie a voi ho potuto farlo quest'oggi, quindi vi sono grato. Bene. Sai per caso se ci sono i nostri amici sotto ancora? I vostri amici? Te l'ho detto, te l'ho spiegato l'altra volta, quel gruppo di altra gente che se vedi devi uccidere perché sono cattivi. Non ne ho visti. No, sì, lo so per forza, eri con noi, però non è che hai qualcosa di magico per sapere se giù ci sono. Erano inseguiti da Golem d'Ambra. Tipo... Ah, allora probabilmente a quest'ora non sono più un problema. Speriamo sia così. ma di nuovo Vardistran è tranquillissimo di sta roba. Che Salla, cosa vuoi che faccia? Non so, ti sei un po' bosciato, però. No, una nel senso detto, cosa posso ascoltarlo lui. Cosa vuoi che faccia, Salla? Sono attorniato da malvagi che gli dico forse non dovreste, quello gli dice che gli dice, ah, dopo siete schiavi, siete fottuti, eccetera, e lo fanno, oh mio, e amen, adesso vediamo, speriamo di recuperare gli altri, di uscire da sto tempio e di andare a sconfiggere Strahd, poi ognuno farà per la sua strada, cosa ti si devo dire? Invecchiato, cosa ti devo dire? No, nel senso, allora... È inutile, cioè, nel senso, io ho già, la mia parte di ruolo l'ho già fatta più volte, è ovvio che se la vostra parte di ruolo c'è quella di non mi cagarmi mai, ci sta, però nel senso non è che cosa vuoi che faccia. Se tu avessi preso il potere che ti donava Laura... No, io per dire adesso, prima non sapendo come funzionava ero curioso, andavo a sentire, nel momento in cui lui mi dice che diventi schiavo di un'entità malvagia, per me non ha neanche più senso toccarli, tant'è che non li tocco. Va bene, entriamo nella stanza di Dio. Arrivate nell'ultima stanzone. Volevo proporre un riposino. Perché? Non sapendo che cazzo c'è in giro, non mi sembra si bene. Sì, perché siamo messi abbastanza male, però non è mai previsto. Ma se il bomberino ci dice che dentro è sicuro, basta accettare i poteri e andiamo. Sì, niente riposo, non ha senso, anche perché un riposo breve non ci servirebbe, dovremmo fare quello lungo. No, aspetta, prima che vada, però una domanda gliela faccio. Ex-Thunder, tu che conosci tutto, esiste un modo, e da quello che ho capito, per andare via da questo luogo, ma non quello convenzionale dalle montagne, sbaglio? non diverso da di un modo per andare via da questo tempio che non sia quello convenzionale. Le pietre magiche che ti teletrasportano al castello di Strada in altri luoghi specifici, tra cui uno è questo. E questo è quello che sei tu. Lui Sapientino. Lui dice che tutti coloro che sono venuti e se ne sono andati di solito arrivano attraverso l'entrata principale. Non conosce altre strade diverse da quella delle montagne. Ah, quindi sa più Giulio. E un certo Radin, non ti è capitato di vederlo recentemente? Sì. È da diverso tempo che non lo vedo, ma era solito venire spesso a pregare al tempio. Beh, lui non credo che si facesse, diciamo, la scarpinata tutte le volte, da quello che so. Entrava sempre, non so come giungesse fino all'ingresso, però entrava sempre dall'ingresso principale. Entrava nel salone e faceva dei sacrifici alla grande statua del dio senza volto. Sacrifici umani? Galline. Mi raccontava il mio amico Neferon che di solito prendeva un grosso rospo vivo e lo ingoiava intero. Vabbè, si può fare. Francese. È un elf. Vabbè, bene, Xa Thunder, ci vediamo dopo magari. Senz'altro, sì, a vostra completa disposizione. Grazie. Ci vediamo dopo. Nel caso incontrassimo il Golem d'Ambra, come dovremmo fare? Scappate il più velocemente possibile. Prima che non c'è un pass, immagino Marco che fa no, però scusa, però se torniamo qua tu ci puoi accompagnare all'uscita per evitare eventuali problemi. Perfetto, a posto. Butto sotto il golem. Vez, puoi accettare ancora il dono del golem. Scendete le scale di marmo. Esatto. Come se il golem è fatto di sarcofagi? Oh. Ah, toccalo! Abbraccio. Scale di marmo. Non di ambra? Decorate di marmo dorato. Del marmo era finita l'ambra. Con uno scorrimano di marmo nero che gentilmente scende a spirale per 30 piedi. E vedete la stanza sottostante. Cos'hai detto, Sfortuna? Vediamo segni di lotta in giro. Segni di lotta, no. Questa stanza è quanto... fai finire la descrizione della stanza. Eccetto per un dettaglio. Tanto c'è avete luce, quindi vedete. Vediamo segni di pace, eh? Sì, vedete segni di pace. Scambiate gente che fa così, simbolo della pace, la colomba che vuole. I muri di ambra sono scolpiti come per raffigurare dei tentacoli che salgono dal basso e si avviluppano intorno a vari bassi rilievi di marmo che raffigurano re, regine, faraoni e sultani e circondate da miriadi di schiavi. E le alcove ad est, sud e a ovest contengono tre sarcofagi e come al solito nella forma di un grosso blocco di ambra molto alto. In fondo al muro, a sud, ci sono due grosse crepe e dalle quali sono caduti vari detriti e rocce che si sono sparse per il pavimento. Giulio, come fai nell'angolo? Girati. Nel mezzo... Cata, io lo stream in pausa, è così anche. Sì, per te. Hai lo stream in pausa? Perché in pausa? Vabbè, che non è che ci sia chissà che di strano. E, in mezzo alla stanza vedete 6 casse di legno marcio. C'è della terra? Vai ad aprirne una. Aspetto che anche che scendano, cioè aspetto che andiamo giù con i miei compagni. Avido. Di solito ho paura di quelle miniere. Quando abbiamo incontrato le casse c'erano delle progenie vampiriche, non è che abbiamo tutta sta salute per affrontare le progenie vampiriche. Però un po' di tracce di terreno. In realtà ne vediamo Giulio che cammina verso le casse e secondo ci inciampa. Fortuna. Senza aprirle, se c'è tipo tracce di terreno. Io vedo benissimo. Sì, comunque mi avvicino a una cassa. Aspetta. Cioè, che senza aprirla si capisce se è piena di terra o no. Giulio è rimasto indietro. Sì, è vero, l'avevo perso. Lo vado a prendere e lo accompagno col braccio. Mi avvicino una cassa stando in guardia. Perché non vede, si è perso. Un piccolo metagame. Sì. Tipo il paladino magari spamma qualcosa. Tipo vedere demoni non morti, cazzo. Ancora, sì. Ma tanto non, se non li vedono non funziona. Ah, cazzo, questo è qua di Scio. Ah, non funziona che attraverso i muri? Vai. Cosa vuol dire se non li vedo non funziona? Scusa, no, c'hai davanti un vampiro, fai individua non morti. È un no, guarda che è davvero tipo così. Ma che cos'è? Vi ricordo che viene bloccato dai muri, ma probabilmente non dalle. Vediamo. Capito? Cioè, altrimenti è veramente nerfato tantissimo. Vabbè, io mi sono avvicinato a una cassa di legno e la va bene. Nel momento in cui ti avvicini, le casse eruttano spaccando il legno. Ok, puoi non farlo perché Giulio l'ha già. Puoi non farlo perché Giulio l'ha già triggerato tutto. No, Divine Sense, vero, posso fare, dai. Ma tanto Giulio è già andato lì e le ha aperte, quindi. No, io mi sono avvicinato, sono aperto da solo. Aspetta, sì. Dai, fammi fare sto Divine Sense, però ti faccio notare. No, sono esplose. Esplode. Beh, lo può fare lo stesso. Giulio si è avvicinato per provare a esaminare una cassa, si sono aperte. Okay. C'era vabbè, la fotocellula. Possiamo tornare su da Hexa Thunder, non c'è nessun problema. Vabbè, e prima sentiamo cosa c'è dentro. Magari c'è sono aperte facendo un rutto, hai detto, catta? Magari esatto. Sono cuccioli di cagnolini. Esatto. Sono quei cazzo di casse che mangiano, no, quelle vive, si chiamano. Mimi. Cosa? Esatto. Mimic, no? Vedi, sì. Vedi Salla che non serve, nel senso che dice entro 60 piedi, che non è sotto copertura totale, ma se dentro la cassa è sotto copertura totale. È una cassa di legno, però non è che sia un muro di pietra. Vabbè, ma non importa, dentro ci sono 7 progenie vampiriche. Oh. Ecco, adesso lo puoi usare, Vezza. Adesso cioè, lo puoi usare. Perché sei esatto. 6, scusa, non so perché ho detto 7. La cassa erano in 2, infatti escono i ragazzi. Ah, strano, Catta, non devo andare via tra poco, però. È vero. A questo punto, buonanotte, ragazzi. Buonanotte. Beh, direi che Marco, che ha preso il dono, sta qua a combattere, noi te ne torniamo su. Vabbè, adesso scusa... Se noi andiamo a toccare i sarcofagi e accettiamo tutto, li dovremmo stuprare. Esatto. Sì. Tipo, progeni, aspettate un attimo qui, facciamo un altro giro e arriviamo. Esatto. Vai, tirate iniziativa. Porca puttana. Questo è un total party kill. Diciamo, grazie Giulio per aver toccato le casse. Qua ne 19. Non le ho toccate, mi sono avvicinato solo. 15. Diciamo, grazie Giulio per essere avvicinato alle casse. Quali casse? 25. Siamo comunque avvicinati per andare di sotto. Ma per usare il roll 20 cosa dovrei 24. Fare? 4. Entrare. Ti devo 19. Qualcuno 19, se vuoi entrare in quello di casta. 4. Siete tutti master, quindi potete farlo mentre io segno. E dove sono? Dove lo trovo? In dadi? No, per l'iniziativa devi andare sulla tua scheda e tirare l'iniziativa. No, quello l'ho fatto, vabbè, 15. Ma se volessi entrare in Roll20 dovrei andare su dadi? No, devi entrare nella stanza di Catta. Sei entrato nel link? Devi cliccare il link che ti perché mandai. Perché non ti vedo. Che mi mandai. Vabbè, vai su WhatsApp e cerca Roll20. te lo trovo subito. Ma io Roll 20 mi sono iscritto. Ma no, bene. Devi entrare nella stanza di Katta. 19 io, Katta, forse hai insegnato. Grazie, 19. Aspetta, adesso cerco se c'è il 14. Link. Tu l'hai cercando solo, guai, stai cercando solo, guai. Garrosh, 14. Sfortuna. Io ho 15 più 5, 20. 20. Race 18, 25, io ho fatto 25, perché 18? Perché era quello dell'altra volta. 25. Ah. Vardistran, 15. 15. Ok, Atanas 4, Pat 24, che 4? Sono sempre ultimo, non è possibile, anche con 15. No, beh, ho fatto 14. Ho 14. Cazzo, ti ho detto 19 io. 19, guarda sì. Te, guarda sti bombardieri. Non è vero, effettivamente. Cioè, mi lasciano, no, è che mi lasceranno tutti lì da solo a morire, che ho 5 punti ferita io. In realtà è esatto, fai un recap dopo Giulio. Ma io ne ho tipo 10, quindi non è che cambia. Sì, c'è Race 10, io ne ho 30. Tu Varestran hai 27. Minchia. Garrosh ne ha 45. No. Siamo già morti, regà. Patka ne ha 61 e Sfortuna ne ha 49. Io non mi sono potuto riposare. Non ci sei, nessuno si è riposato. No, riposo breve voi l'avevate fatto. Ah sì sì, quello, ah, sì, quello non avete fatto. Vi hanno pure curato i vostri amichetti. Ma non a me, bastardi. Esatto. Vabbè, tu vedi con quello che... Le progenie sono forti, vero? Sì. Sì. Sì. Anche a sto livello? Sì. Sì, Sfon... Sì, cioè... Che hanno un bel po' di vita. Sì, beh, se Marco gli sparasse una tra quattro pali di fuoco... Sì, possibilmente non colpendo noi sto giro, esatto. Tanti incantesimi, cioè anche io non ho fatto riposo. Vabbè, chi tocca? A Race. Ah, lo sapevo. Invisibilità. Chissà se vedono l'invisibilità. No, tu hai fatto il riposo breve, Marco, quindi la palla di fuoco ci dovresti avere. Sì, ma ho già usato una palla di fuoco prima, non mi ricordo, nella stanza, contro... Contro i teschi fiammeggianti hai usato palla di fuoco? No, contro Garrosh. Ah, è vero, contro gli spettri di Garrosh. Allora, cosa sapete delle progenie? Vabbè, invisibilità e vado a toccare un sarcofago. Ho affrontato un sacco di volte le progenie. Ok, da quale vai? Sud, est o ovest? Vado da quello più aperto a cui arrivo. Cosa vuol dire più aperto? Che se ci sono le progenie davanti e le evito. In effetti dobbiamo chiedere a Extra Thunder di curarci. Sì. Sì, ci arrivi tranquillamente, hai anche due movimenti. Tocco tutto. Ma è un lich, non credo. Sì, esatto. Allora. È un mago di... certo, mi devo baffare. C'è uno che mi dice ti rigeneri tutto e prendi più punti ferite. Hai contato anche i 13 temporanei che ci dà Marco? Sì, Giulio, vero? Sì, sono finiti la volta scorsa, nei combattimenti scorsi. C'è il sarcofago che ci fa livellare, lega. Esatto. Quello lo prendo. Ok. Senti, senti che questo sarcofago è diverso dagli altri. E appunto percepisci una serie di sussurri, di parole strane che non sapresti tradurre e comprendere, e dopo pochi istanti torna il silenzio. Ma porca troia, ho preso quello fallato. Così a scatola chiusa. Vaffanculo, ho preso quello fallato. E niente. Dai, prendilo. Cosa prende? Prendi, cosa prendi? Non dice nulla. Al buio. Tu dica accetti. Così magari qualcosa ti arriva. Con l'azione bonus puoi arrivare a un altro. Allora vado a un altro. Est o ovest? Est. Allora, il sarcofago est. Ah, il sarcofago di Zudun. La stella cadavere. Chiaro. La di Broadway. Allora. Ah, tu sei alla ricerca di potere, lo so. È vero. Potrei solo non morire. Proprio come molti altri. Scarpe, sì. Salla. Veramente volevo nascondermi dentro il sarcofago e basta. mi può fare posto. Tu vieni alla ricerca del potere sopra la vita e la morte. Sì. Io sono Zudun, la stella cadavere. Io sono il maestro della morte. Tocca Salla, mi piace questo. Comunque, tutti sanno... Questo pare mia sorella. Sono un po' vinculata, ma vabbè. Comunque pochi sanno che c'è un prezzo. La morte è un velo che circonda l'anima. Se vuoi rimuoverlo, dovrai indossarlo tu stesso. È così che sono finito qui. Ma posso ancora condividere un po' del mio potere con te. Giusto appena per te, affinché tu faccia una, che tu possa prendere una decisione molto importante. Allora lanciaci Gamora dentro e prendi il potere. Vabbè, ci penso, tanto il mio turno è finito. Penso che sia quello che voleva Kevin, quindi. Sì, direi. Per esclusione Atanas. Io guardo gli altri e nel senso, cioè dobbiamo battere. Non ce la facciamo, raga. Ah, 5 minuti. Raga. Rega non sì. I non morti e i vampiri, scusami, col ghiaccio si fanno qualcosa? Quello che sapete delle progenie vampiriche è che resistono ai danni necrotici e i danni fisici da attacchi non magici. Penso io, ragazzi. Sì. E si rigenerano se non prendono dei danni radianti. E sono 6. O danni dall'acqua santa. Fatta. E hanno movimenti del ragno. Perché ho fatto 19 di iniziativa e non sto ancora giocando? Perché gli altri hanno fatto 24. Ha fatto 25, Arci. Madonna, rega, ciao. Atanas ha fatto 24 e sfortuna 20, proprio per mangiarti. Io ho fatto 14 e Vez 15, siamo gli ultimi, cioè tu pensa. È troppo bello, anzi, quanto tipo queste cose tipo da bambini. Giulio, scappiamo, dai. Siamo arrivati. Esatto. Oppure vedendo il comportamento di Salla, possiamo perdere un turno a vedere i sarcofagi. Non vediamo Salla invisibile, quindi. Esatto, ma Salla lo fa perché è invisibile. Tu non vedi Salla, Giulio, perché non hai gli occhi. Io fisso le mie orbite. Immagino, Giulio che fa Salla invisibile, Salla davanti. Salla si nasconde benissimo. Anzi, faccio Atanas, guarda, ho imparato invisibilità di massa. Incredibile. Non mi vedo, sei grandissimo, lei. Le mie orbite private guardano Vardistan per vedere se con i tuoi occhioni dolci hanno aspettato. Immagino Giulio rivolto verso il muro, via progeni, via. No, nel senso Vardistan. Vuoi aspettare? Posso parlare adesso? Per parlare puoi parlare adesso. Ma non posso muovermi. siete voi che volevate venire qui dai sarcofagi? No, comunque... Cos'è? Te l'avevo detto. No, è vero però. È il pontile, il pontile. No, per me possiamo tornare indietro, e questo è il concetto. No, se voi... Visto che noi ci conosciamo comunque da svariato tempo, io ti guardo nel senso per vedere se tu sei intenzionato a combattere, cioè tipo cenno del capo, quelle cose lì. Allora, io ho poco solo margine, che tu sanno che in realtà, in realtà Giulio banalmente dipende dall'Arci e da Marco quanta forza hanno, perché noi abbiamo reggiamo un turno forse. Il discorso è che quasi tutti, secondo me torniamo indietro, secondo me. E ci nascondiamo sotto le gonne di Exatan. però se voi avete un'idea diversa, no, io guardavo perché magari tu facevi cenni di combattere che si combatteva. Il mio è uno sguardo allucinato. Noi non capiamo che Giulio cerca di guardarci per avere uno. Noi vediamo Giulio con gli occhi neri così. Giulio ha detto lancio uno sguardo a Vardistan. Io guardo Vardistan, non è che lui deve guardare Giulio, no. Giulio fa lancio uno sguardo a Vardistan. No, allora io ti dico non siamo in condizione di sostenere questo scontro, cioè c'erano un paio tipo. Scusa Giulio, quanta vita ho io? 61 da nano? Sì. Beh, dai, allora pezzi. Sì, ma sei quello che ha più punti ferita. Il problema è che Exatanda non ci accompagna qua. Vabbè, prova a sparare due cose quando tocca a me. Vediamo. Evoco i mastini, poi urlo. No, oh, bravo. Ce l'hai anche uno. No, però sai una cosa, Giulio? Un polimorfismo ancora. Sai cosa, Giulio? Sì, secondo me ce l'ha un polimorfismo. Li possiamo provare ad attirare un po' su... Nel senso che sulla scala il loro numero... No, vabbè, sappiamo che... Ma scusa, loro non camminano in verticale. Hanno movimenti del ragno, loro. Sì, hanno movimenti del ragno. E vabbè, e quindi... Tocchiamolo in sarcofago. Camminano anche in verticale, quindi arrivano da tutte le parti. Vabbè, dai, abbiamo combattuto le progenie vampiriche fino a questo momento. Si muore. Vez, questo è il karma. Abbiamo iniziato la sessione pestando sangue un vampiro legato, un bambino di 2 anni. Oh, è vero! Me l'ero scordato. Mi sposto un attimo sulla sinistra. Mi viene deciso di combattere. Qui. Io comunque sì, è stato bellissimo. Ha guardato me per sapere cosa fare. Io ho detto: non possiamo combattere. Salla, quindi chiedi che cazzo faccio. Ma che cazzo vuoi da me? Non so che faccia. Io lancio. Non hai ancora capito. Allora, hai detto a Marco di non toccare il sarcofago. Lui ha toccato il sarcofago. Hai detto di non toccare il sarcofago. Hai ancora capito la psicologia inversa di usare. Se Vardistran facendo, torniamo su. Io torno sulla Exatander. Comunque, io urlo che dopo sparo il ghiaccio. Quindi, se siete in mezzo al cono, cazzi vostri, lo dico prima. Torno su da Exatander, catta. Ok. Disingaggi? Dal tizio che è davanti. È vero. Ma sono il primo? Lui non ha ancora agito un cazzo? Cosa devo disingaggiare? La reazione ce l'ha. Ah, è vero che giù tanto sei avanti, quindi guardi indietro me, però sei lì avanti in mezzo agli altri. Ho sbagliato. E poi guarda sempre tra virgolette. Dov'è la fine della scala? E vabbè, mi prendo l'attacco di opportunità. Ok. Non puoi disingaggiare. Quindi è di qua. Esatto, perché non disingaggi? Perché vado fin su. Perché la fai narrativa? No, faccio due movimenti dopo. Sì. Hai voglia. Lui quindi ti dà una graffiata con spera di diventare un vampiro. Ok, ti manca e torni su. Tocca a sfortuna. Palla di fuoco. Palla di fuoco. Palla di fuoco. Ah no, palla no. Non vedo, e anche la fuga bonus. Vabbè, spara sta palla di fuoco, cioè tanto non mi prendi. Non mi prendi, non mi prendi. No, sprecato, se ce ne andiamo questi rigenerano, non ha senso. Sì, ma non puoi prenderlo. Nostro stratega barbaro. Esatto. Sfortuna, cosa fai? Spara sta cazzo di palla di fuoco. No, in realtà ci aveva detto anche la cosa giusta di riposare, però non potrei... Visto che io non vedo nessuno. Siamo stati lì a ottobre. Esatto, perché tanto scevo io per dire non potevo, cioè neanche riposarmi non aveva senso, non aveva più dadi. Neanche per me, no, anche io per potevo me riposarmi, non basta. E potevo recuperare. Sì, ma tanto tu sei invisibile in giro, quindi... Cioè, secondo me... Cazzo dobbiamo... vuoi? Allora, facendo metaplay senza riposo lungo è la morte, questo combattimento. Beh, come tutti quelli che abbiamo fatti finora. No, ma prendili tutti, no. Marco. Per prenderli tutti... Deve fare così. Non prenderli tutti. Però Race non lo prende. Vaffanculo, Mori. Ma ammazzalo. No, tiralo cioè, sotto. Se puoi prendermi e prender loro, fallo. Ma noi non so dove sei. Non è a te non ti prende neanche. Ma non sbaglio. Ci provare, Marco. Vai no, pur Marco. Giù, vai pur giù, vai un po' più giù, un po' più giù, un po' più giù, un po' più su. Dai, ne prende un po' quattro, più su. Dai. Un po' più su. No, un po' più giù, un po' più giù, un po'. Eccolo! Così, tac! Così è perfetto. Allora metti un po' più a destra. In effetti no, sì, Marco, si... spostati un attimo indietro e poi colpisci tutti prendere, e sali insieme a Pac e Garrosh. Riesci a prendere un po' più a destra. Particolarmente rosso in faccia. Perché ieri ho preso un po' di sole per sbaglio. Goji. Ha preso un po' di Goji addosso. No, si è spalmato un po' di Goji addosso. Riesci a prendere tutti e due quelli lì, Non ho capito. Vabbè, mi muovo 30 piedi verso la scala, verso l'alto. Arrivi qua. Ho salvato un'immagine di Giulio. Scusa Marco, sposta un po' più a destra la palla e becchi sia quello nell'angolo che quell'altro. Ma becco anche te. No, non in su, in giù, a destra. Catta, farlo spastico. Fai però becca anche tutti e due. No. No, un po' più giù, sì, un pelo più becchi, giù. Becchi anche Pato. A sinistra, catta. Merda, oh, vengo lì, Un po' più a destra, un po' più a sinistra. Bravo, ancora un pelino, così prendi anche quell'altro in fondo. Eccoli, un po' più... visto che li becchi tutti? Tranne no, c'è fuori uno. Vabbè, così però li becca tutti. Però uno. Andiamo a darci quel che diarci. Scusa, anche questo è fuori. No, quello no. È dentro. È dentro, guarda lì. Con un puoi andare leggermente più su e poi a sinistra. Merda, raga, vi do fuoco. No, quello più in alto così. Quello più in alto a destra non lo può beccare senza colpire anche noi. Scimpanzé quando deve muovere quel coso. No, l'ho mosso io. Sì, esatto, perché qua non ci sono solo io che così, fermo, così li prendi tutti. Sto pensando di farlo così, prendendoli tutti. No, così, fermo. Così. Perfetto. Così bruci la barba. Merda, raga, devo far tutto io nonostante la lag. Non ne becchi uno, ma gli altri ne becchi. Vabbè, lancio sta palla di fuoco. Pelo, mi brucia la barba, me. Esatto. 32. PD? 16. Vedi, alla fine combattiamo, quindi devo riscendere in prossimo. Io mi ero messo proprio lì in modo da non venire beccato da un'eventuale palla di fuoco. Ora però io mi sa che quando sparo il cono di freddo mi sa che becco tutti voi. Ma ora mi sa che tu scappi come uno stronzo perché esatto. Una palla di fuoco da... Forse in effetti conveniva che facesse prima Arci. No rega, perché anche l'altra volta ho sparato il fuoco il freddo e sono scappato. Ti ricordi? Sì, no, sì, adesso hai veduto prima. Ti appena esplosa una palla di fuoco a un centimetro dalla faccia. Ha ragione Arci. L'altra volta, come reazione alla paura, ha sparato esatto. Un colo di freddo. Quindi, se valeva l'altra volta, c'è un precedente. Io sparo il freddo e me ne vado. No, tu scappi e basta. E, loro lo passano. Tutti. Porca. Vedete che fanno dei saltelli molto aggraziati. Hai tirato un soldato, di la verità. No, li ho tirati 6 addirittura, uno in più così. No, beh, no. Ha tirato poi quando uno è passato e va arriva per tutti. No, veramente, non ho fatto un tiro sotto al 10. Vabbè, ma loro avranno un più 200 in destra. Congratulazioni. Grazie. Quindi tutti 16 danni. Ringrazio. Tutti 16 danni. Non lo so, raga. Cioè, tutti a parte uno. È che certo. Io non gli faccio tanto danno perché non ho un'arma magica. E che perdiamo anche Arci adesso. Adesso sono totalmente inutile. Non se l'altra volta ho sparato il freddo in reazione. Fammi un tiro di saggezza con svantaggio. Con svantaggio. Il più mio, paradossalmente. Sì. Allora, immeritato, se posso lo tolgo. Ho tirato un bel 1, però ho 4 convex e più 7, quindi vado a 11. Bene, scappi a gambe levate su dalle scale. Ciao. Ciao. Raga, scappiamo tutti allora, dai. Bardistran. Sono dei vampiri. Ma scusa, a che livello hai immunità alla paura, Vez? Aspetta. Io? Il prossimo. Ah, ottimo. No, non lo so. Era... Volevo scherzare, ma... Ah, ragazzi. Aura di coraggio. Sì, aura di coraggio. Vabbè, niente, Vez, guardare. Vabbè, fa troppo male. So. Scusa, Bure Enemy è su uno solo, però. Che cazzo è Bure Enemy? È uno dei miei channel, aspetta. Quindi no, no, non è più presa in considerazione l'opzione fuga? O... No, l'opzione fuga è la prima opzione. Il problema è che poi lascia Marco... Vabbè, è anche Salla, però Salla è invisibile. Cioè, ma Salla non Bure Enemy ne spaventi uno solo, però. E magari loro sono pure immuni alla paura. No, no, no, Bure non è paura. Beh, ma Marco sarà è quasi paura. In cima alla scala, cioè in vista di Exatander. No, no, ma è andato via Marco. Ok, no. Allora, vabbè, siamo solo io e te e vabbè, non lo sappiamo. Marco è arrivato in cima alla scala con il suo movimento. Dammi solo un attimo. Io K dove sono? Dove sono andato? E tu sei fuggito su, hai fatto tutta la scala e sei arrivato al secondo, alla biblioteca. Hai calpestato e scavalcato anche chi c'era lungo la scala per scappare. Ah, no, hai ragione, sulla paura hai ragione. Però no, vedi che gli undead hanno svantaggio. Ah beh, forse allora poteva avere senso. Però su di uno. Sì, è una. Sì, una sola, quindi bella. Farai più strada. Fai due azioni di movimento verso la scala. Ed è un'azione, tra l'altro. La scala quanto è alta, scusami? 30 piedi. 30? Ok, quindi con una mossa la faccio tutta sostanzialmente. Sì, sei a... arrivi praticamente a 5 piedi dalla fine perché sei un po' più là. Ok, vabbè dai, ci sta Flavor. E faccio su quella più vicina, gli sparo il simbolo e gli faccio la Bure Enemy. E poi con col movimento vado poi su. Quindi lui fa un tiro salvezza, quello più vicino alla scala. Con svantaggio. Esatto, fa un tiro salvezza sul wisdom, sulla saggezza. E fallisce. Non sai neanche qual è la difficoltà. ma so quanto ha fatto niente, è molto spaventato e la velocità della creatura è zero. Allora, potevi provare a farlo su Arci, magari annullava la sua paura. Sì, è vero, potevo farlo, però ormai è scappato. Se fate tutti i tiri iniziativa così alti, e poi vado su. Garro, non ce la facciamo. Ah, io so di non potergli fare danno, so di non poter subire danno, per cui... Vado in ira e fa il culo. Quindi mi incazzo, ira, e via. Mi do uno schiaffo. Vabbè, fatto anche no, fosse stata portata avrei provato a toccare un sarcofago prima di scappare, ma prenderei dei grandanni. Ok, dopo li aspettiamo in cima alla scala, cioè ci mettiamo tutti in cerchio attorno alla cima della scala. Dobbiamo chiamare Exatander che ci dà una mano. Exatander è lì nella biblioteca. Giù non ci viene lui. Ah, non è tornato nella sua stanza, è rimasto nella biblioteca. Non lo vedete adesso. Possiamo vedere se nei libri c'è qualcosa per curarci. Sì, vabbè, dai, siamo stati via neanche un minuto, cazzo. Cioè, siamo 39 scale. Ho capito, ma la sua età dovrà pure andare in bagno spesso, Giulio. Ho capito, ma avrà sentito l'esplosione di una palla di fuoco. Maggior ragione, forse magari è telato. Magari è per quello che non c'è. Ma figurati... Magari ha accettato lo stesso voto di Pact. Esatto. Pact. Non Pact. Pact. Pact. Ha fatto tutto in movimento, quindi può essere dove gli pare. Sì. Garrosh ha fatto tutto in movimento, quindi all'inizio della scala. Tu sei all'inizio qua? Vicino all'inizio, sì, boh, forse tra il tavolo e... Ti fermi, ti rimi Tipo. allora mi fermo anch'io lì. Sì, non è che sono scappato a gambe levate. No, mi sono ritirato. Potevi metterti dove volevi. Ah, sì, sì, no, ok, però nel senso, cioè, sto lì, perché magari c'è qualcuno che viene in server, che qualcuno stia lì. Ok. Proviamo a urlare, Exa Thunder, magari arriva. Io provo a urlare il suo nome, magari arriva. Va bene. Exa Thunder. Urli il suo nome e la tua voce risuona nei corridoi. Ah, aspetta, non dovevamo dire i nomi? Vabbè, è troppo tardi. Esatto. Ma vabbè. Ops. Sono dimenticato. Vabbè. Ci sta, anzi, meglio. Ok. Dove cazzo è che sta questa Ah, ok, bravo. Perfetto. Aggiungo anche un exatale. Dove cazzo sei? Bravo, mi hai dato gli spiriti. Va bene. Race, tu che sei ancora lì sotto, vedi le progenie che vanno all'inseguimento dei tuoi amici. Okay. Anche se spesso abusiamo di questa parola, tranne quello che è spaventato. Cioè loro sono in mezzo tra gli altri. Vedi che cominciano a salire lungo i muri e poi camminando lungo il soffitto per arrivare all'apertura della stanza che dà sulla stanza superiore. E sta a te. Allora io accetto il dono e vado avanti. Race, allora tu accetti il dono di Zudun, la stella cadavere. Il beneficiario. La stella cadavere. Adesso mi ammazza e devo fare un PG nuovo. Il beneficiario con un'azione può toccare i resti di una creatura morta e riportarla in vita. Easy, lanciamoci in fight, riga. L'effetto è identico a quello dell'incantesimo resurrezione. Ma. Funziona indipendentemente da quanto tempo la creatura è morta. Quindi anche sui vampiri? Questa è una domanda. Trabocchetto. No, mi sa che resurrezione deve essere d'accordo l'anima, tipo. Cioè, se passo sì. Su Strad, mi sa che mi dice... E poi penso che una volta che diventi non morto non puoi essere resuscitato, credo. Sei più un morto, ma sei un A meno morto. Che non, uno non faccia un miracolo o delle robe del genere. E, nessun difetto. L'aspetto del beneficiario diventa quello di un cadavere e le sue apparenze sono facilmente scambiate per quelle di un non morto. Ma non sono morto? No, però sembra solo sembra. Tipo super pallido e non è un non morto, dice. Non è considerato non morto. Da Auschwitz. Che bella sera che è la nostra compagnia negli ultimi giorni. Dice, se proprio sei facilmente scambiato per un non morto, quindi deve essere una cosa molto molto tipo cadavere, tipo super scheletrico, esatto. Tipo un anziano. No, proprio quasi tipo un lich a questo punto. Sei praticamente uscito da Auschwitz, insomma, cioè. Però hai riconosciuto. Quindi sono un ebreo. Oh no! Anche in questa campagna. Sì. Tu vedi che è lui. Sì, riconosciamo che è lui, ecco, no, perché sennò io non mi sono spinto a dire queste cose. Solleviamo. Ma sale già malvagio, non fa il tiro salvezza. Quindi serve un'altra palla di fuoco. Se non sei malvagio, sei già malvagio, fai il tiro salvezza. Sono malvagio io. Su cos'è che era il carisma? No, saggezza. No, era sul carisma. Il carisma è arci passato due volte. Sì, mi sono sbagliato. Ah, che ironia. Un tiro salvezza sul carisma diventi malvagio. Oh. Io su cosa l'ho tirato? Su costituzione, scusa. Su saggezza. Secondo me tu l'hai tirato su saggezza. Cioè, tirato su intelligenza allora. No. Magari gli altri su saggezza, catta. Cosa hai detto? Magari gli altri su saggezza. Uso il punto ispirazione, catta. Va bene. Com'è sto fatto? 17. Attenzione. L'hai cacciato. Perché non vuoi essere malvagio? Perché ti mi troveresti ti troveresti bene in questa compagnia. Ti troveresti bene. Non capisco. Mi fa schifo essere malvagio. Perché? Sallo da non morto, mi fa schifo essere malvagio. Non sono non morto. Va bene, detto questo, torno su per le scale. Ma sono tagliato i sarcofagi. Insegue i vampiri. I vampiri sono sul soffitto. Ah. Salgo le scale. Ok. No, così. Ah, allora mi bisogno di un altro potere. Prendo un altro sarcofago. E vedo Sala, prendi quello dei ragni. Schifo, no? Ho fatto questo perché mi diceva tipo cose fighe, tipo non muori. Sei ma non figlio. Hai sentito gli altri, però. Vinci la morte. Uno non lo sento. Spento. Penso che sia allora quello che diceva. Rega, parliamoci chiaro. Sarebbe già la terza volta che mi lasciate indietro. Io vi seguo, così evitiamo di farle cazzate. È l'ultimo potere. Ma facci tu, ma scusa, ma che cazzo vuoi da me? Per esclusione sapete già quale. Appunto, devi prenderlo! Perché devo prenderlo? Rega, buttiamo giù Vardistran, così prende quel potere. Ma che potere? Atalas. Non è che se mi butti giù prendo il potere, semplicemente muoio mangiato dai vampiri. Non hai altra scelta se non prendere il potere. Finalmente un cazzo di vampiro e vengo a cercare per uccidervi tutti, sarà un bellissimo. Esatto. Ma quello è il potere. No, dai. Ma no, ma magari il potere quello del vampiro è quello che non riesco a sentire. Vedo qualche vampiro. Quello che non riesci a sentire è quello di Ezra Thunder che ti ha detto che se non hai le capacità non lo senti. Non vedi vampiri che salgono sulle scale. Coglione. Ok, allora mi allontano dall'apertura tenendo sotto tiro comunque la tromba lì delle scale. Ma scusa, se avrei tentato di, visto che ho la possibilità di correre sui muri. Sì, lì più o meno. Ma ci sono loro sui muri. Ma e dico anch'io inizio a dire Exa Thunder, dove sei finito? La biblioteca va a fuoco. Prepari un'azione. Se un vampiro sbuca, gli sparo una freccia. Ok, sfortuna. Cioè due, perché è un'azione, no? Sai che quando prepari un attacco ne prepari solo uno, mi sa. Vabbè, allora preparo una freccia. Sfortuna. Me la telo via. In che direzione vai? Verso la porta. Quale porta? Ma gli altri sembrano... Col tuo movimento arrivi fino qui. Hai un'azione da usare. Prepara il Dredge Blast. Cosa preparo? Riesco a toccare qualcuno? Sei di fianco a Patk. Mentre vai là puoi toccare Garrosh, ma anche Atanas. Ma, tocco Patk castando eroismo. Ok, spara il Dredge Blast. Cosa fa eroismo? Che bella scena. La concentrazione con la quale si nutre, ma... È un tagliaunghie che usi anche come forchetta, come funziona. Calma mia. Oh, calli. Cosa fa eroismo, Katta? Ah, un piatto di calli. Sei a diventare spaventato e prendi punti di ferita temporanei uguali all'abilità di incantatore di chi te lo fa. Che tocca a te. Carbonara. Quindi adesso non è più spaventato. Tocca a me, Katta. Dai, mastini. E Katta. Prendi 8 punti ferita temporanei. Tocca a me, Katta. Falli toccare a lui. Per favore. Vado verso i... Ah, io mi sento non più spaventato. sì, sei pieno di coraggio. Sono pieno di coraggio, fanculo le fiamme. E vado verso i vampiri, catta. Ok. Dove sono? Sono, cioè, voi adesso non li vedete. Race, vabbè, invece sì. Prima dov'era? Erano sul soffitto? Voi siete saliti di su. Quando Race saliva le scale, loro stavano percorrendo il soffitto per sbucare dall'apertura della tromba delle scale. Allora mi avvicino un po' per sgamarli e sparargli il coso di ghiaccio. Va bene, se ti metto qui? Se li vedo, sì. Da qua? Cioè, riuscire a vederli dal piano di sopra è abbastanza difficile, perché sono esattamente sotto. Allora farò due gradini giù. Ah, ok. Cioè, se sono lì sotto... dimmi tu dove li vedo. Fammi capire, mi stai per sparare un cono di gelo in faccia? No, lo spara dall'altra parte. Ok. Quanti ne prendo, Katta? Diciamo che riesci a prenderne almeno... Com'è che erano disposti? È larghissimo. 2, 3. Fa un puttanaio di... Sì, ma loro vengono 3 da una parte e 3 dall'altra. Quali prendi? Quelli a est o quelli a ovest? Vabbè, quelli... È uguale, Katta, scegli te. Quelli che hanno già beccato danno da Marco. Va bene. Quelli che vedo un po' sbruciacchiatini. Allora, classe, tiro salvezza. 15 sulla costituzione. Sì. Giustamente vedi un po' bruciacchiatini, metti che riprendano fuoco, li spegni perché non ti piace. No, sì, sulla costituzione. Quindi Giulio senza occhi, Marco senza denti, Salla Casale. Raga, però ho fatto un tiro devastante. Rosa e Arci che scappa ogni volta che c'è una fiamma. Beh, sei troppo peroso. No, adesso sono un eroe. Ho fatto 44 danni. Fino alla prossima fiamma. Con il resto di 2. Su 8 di 8. Neanche uno. Esatto. Scossa l'albero delle noci. Ah sì, questi 5 continuo a tirarne 5 e tutti l'hanno fallito, quindi a questo punto ne tiro davvero solo uno. Dove, che cosa ha fatto, scusate? Ha investito 3 vampiri. Gelo. Anche quello mio? Anche quello paralizzato? No, non credo. No, ha colpito gli altri. Per lui se prende danni si ripiglia, se no è per un minuto così. Sì. 44? Sì, gatti. Hai capito? Peccato, se non avessero spassato il tiro salvezza sulla palla di fuoco, forse qualcuno sarebbe caduto. Occhi d'occhi. Questo come li vedo, Katta? Come li vedo? Fuck, come stanno male? Stanno... Dov'è? Sì, sono abbastanza provati, ma sono ancora belli combattivi. E la loro rigenerazione ancora funziona. Questo era il turno di Patk. E no, poi con il movimento torno indietro. Stai segnando gli utilizzi del coro. Sì, è il terzo questo. Hai usato tutto il tuo movimento per arrivare lì dove sei? No. Allora starò lì. Le progenie erano 6, giusto? Ora sì. Ce ne sono 5 attive. Ok. Bardistran. Potrei fare un old person. Allora, io che cosa vedo? Dove sono? Perché non li vedo adesso, scusami. No, tu dove sei li vedi in realtà? Stanno camminando sul soffitto, a parte quello spaventato, per sbucare da questa apertura. Ok, allora, io faccio un old person su uno di loro. Mi concentrerei sul termine person prima di farlo. No, ho capito, un umanoide sì, però dai, Chosa di umanoide, cioè non puoi dirmi che questi non sono umanoidi. Sono morti, non sono umanoidi. No. Aspetta. Cos'è un umanoide? Concentrerei sul termine terzo. No, ho capito. finché il golem posso starci. Questo concentrerei no. sul termine vinco. No, esatto. Cioè, vabbè, allora, nel senso, loro brucio. Fare mostri. Ma no, ma questi sono umanoidi, ma scusa. Oh. Andiamo a vedere. È umanoide inteso come ma no, umanoide e non è che è l'uomo e basta del no, coso nella regola, adesso ve lo becco nei mostri questi non sono umanoidi, sono non morti, cioè uno zombie non funziona, perso. Io stia facendo Sei chissà quale G&D. Potere della potenza devastante che va ostacolato. Cioè, è una roba che tanto farai 20 al tiro salvezza, mi viene lì e mi sbrana, che cazzo, come si chiama progenie vampirica? No, dice di no comunque. Vampire spawn, cioè i forum danno ragione a Captain. Sì, ma è così. Niente, scappo di 150 km, che cazzo ne so, vabbè, attaccherò uno, va bene, vai. Vai. Con un giavellotto. Scusa, dov'è? Vampire Spawn si chiama? No, ma lì non lo scopri, devi guardare tipo sì sui forum queste cazzate qua. Perché... No, no, c'è scritto perché c'è indicato all'inizio. No, il tipo è non morto. È proprio la classificazione esatto. Di una... da ok, undead e basta. Vabbè, il tipo è non morto, no? Cioè, per vedere se è tipo undead... persona umanoide. Va bene, niente, tanto questo non riuscirò mai a usarlo. Allora, non morto umanoide. No, deve esserci scritto gli umanoide, non c'è scritto, va bene. Va, attacco. Ah no, non posso attaccare nessuno perché sono sulle cazzo di pareti, quindi non faccio un cavellotti. Ma che giavellotti. Giavellotti. Io rega rimango dell'opzione fuga, ecco. Sì, rega. Allora, sparo, no, ce l'ho. Stanno morendo. Prendo una boccia di acqua santa e la sparo su uno di loro. Di quelli feriti, più vicino. E poi mi allontano. Holy water. Cosa tirare? Allora, che cosa tiro? Il proficiency? E la destrezza? No, destrezza non ce l'ho. Con la proficiency sono 15 a colpire. Devi fare un tiro ranged, quindi con la destrezza. Che non ho. E trattarla come una arma improvvisata, quindi dubito che aggiungi la proficiency. Quindi 11. Ok. Posso tirarne 2? Penso di... No, bene, non perdere, guarda. Okay, vabbè, dice, niente, ma lontano, dai, basta. Ne fai una. lo manchi. Questo era Vardistan. Garrosh. Mi allontano però, se posso, almeno quello. Concentrerei sul termine... Mi concentrerei sul termine sei fottuto, merda. Concentrerei sul termine no. È un'opzione per cui io corro sulle pareti e vado a toccare l'altro sarcofago che mi alletta molto. Ma ci sono loro sulle pareti, Sceo. Vabbè, posso evitarlo, non devo correre. Dai, Sceo, vai. L'altro sarcofago è quello del vampiro, è quello di strada. Sì, raga, prendiamo tutti quanti quello e sciottiamo ste capre. Non ti dà nulla finché non succedono delle cose. Ma se non riesci a sentire che cosa? Ma a me sembra un'inculata quello lì, perché... Devi morire per diventare vampiro. Sì, e poi non credo ci siamo vicini tutti, comunque. Sì, ok. Cioè, in che senso devi morire per? Non diventi un vampiro? No, Strad non è diventato vampiro subito dopo aver fatto il patto, è diventato vampiro dopo che è stato ucciso, dopo che lui aveva ucciso il fratello. È vero. Esatto. Bravo. Hai studiato. Comunque dubito che diventando un vampiro tu sia ancora Garrosh. quello vabbè, allora vedere... ispirato dalla mossa di Vardistran provo anch'io a tirare una boccetta giusto per non buttare il turno e quindi ci metto la destrezza. In realtà destrezza. C'è una cosa che io potrei farvi. 18. Cosa hai fatto? Colpito. Quindi sono due di 6 danni. Di 6 e sono danni santi, quindi gli blocca la rigenerazione. Il cilio malconcio che c'è, poi... Certo, quanto hai fatto? Sì, faccio qualche passo indietro anch'io. Top. Quanto hai fatto? A colpire 18. Non 2 di 6. Sì, sì, l'hai colpito. Tira 2 di 6. Ah, 2 di 6, non avevo sentito. Due. Comunque hanno classe armatura 15. Oh, quindi. Brutto? Oh, brutto? Cosa oh, brutto? Fatto? 12. Sono buoni tutti così, eh? Cioè. No, cazzo. No, no. Infatti ne ho sentito i dati sul tavolo. No, fatto no, su... no, no, l'ho fatto. Okay. Ti abbiamo sentito prendere i dadi. La prossima volta tiro con l'inquadratura sui dadi. No, l'ho fatto sul serio. Dai, questo era Garrosh. Tocca a loro. E faccio qualche passo indietro anch'io. Sì. Dove vai? Dove ci sono gli altri. Verso la porta. Ok, quindi... dei 6 che erano giù, quindi solo 5 spuntano. Però non ho capito la risposta alla domanda di lei. Posso tirarne solo una? Perché hai detto... Sì. Sì, perché dice proprio con un'azione ne tiri una nella descrizione della... Ah, ok. Sì, non è un'arma da lancio. Sì, sì. Andiamo, userò... vabbè, questi vanno bene. Io sparo. Sì. 4 e 5. Chi è che può fargli danni? No, ma adesso... Beh, che danno glielo possiamo fare tutti. Danno glielo allora, possiamo fare io tutti. No. Sì, sì, allora, tutti. Adesso uno di voi due faccio il Magic Weapon se sopravvivo. Quindi di mezza. Scusa, ma non... Io sparo a uno, quello più vicino che vedo. Non so. Okay. Ok. Tu... Giulio, hai un'arma magica. È la mia reazione, è la mia azione preparata. Vai su quello che ha sciacquato Sceo. No. Quindi io e Giulio siamo... No, tu... ma non ho visto qual è quello che ha sciacquato Sceo, quindi... Vabbè, lo vedi, sì, quello bagnato. Siamo, vabbè, sì, siamo vedrai, quasi dai. A 10. Siamo, ce siamo ce n'è uno che non rigenera. Ok, se lo capisco... Sarà vabbè. Bagnato, dai. Sì, 17. Cioè, giriamo con Super Liquidator per combattere i vampiri. Oh. Siamo a livello 10. 17, no. Gli faccio... Non sei a livello 10. Avevamo il chierico. E una gamba da 300 milioni, ma una banda di operatori vampiri. Quanti danni? 4. Qualcuno chiami l'AS, ci serve il chierico. Ok. Adesso c'è Mario. Se il medaglione avremmo già finito la campagna. Esatto. Sì, se non avessi scambiato Vez con un panino tocca grande. Loro. Qual è il migliore? Quello che ha l'AS. Quello che io ho dato all'AS. E l'AS ha dato a Strad. Ma scusa, non sono arrivati su sto turno. Sta ancora loro. Loro iniziano il loro turno lì. Erano praticamente... Che non ce li faceva vedere prima Catta. Adesso quando tocca loro, vediamo dove erano. Vediamoci, grande classico. Hanno usato tutto il loro movimento per arrivare al punto in cui gli bastava scavalcare ed essere lì. Vai, e adesso vai, usano il loro movimento e le loro poderose azioni. Iniziamo da Atanas. Atanas, la tua è ormai intonsa, nonostante abbia preso la palla di fuoco, perché ormai si è rigenerata. Loro fanno due attacchi, quindi prova a darti gli arti, fa 1 e 2. Ok, quella su Vardistran. Io, chi è quello, su chi è quella bagnata? Quella bagnata è su Garrosh. Chi vuole intendere in te? 69 l'episodio. Nice. Classe armatura Vardistran. Lo fa mentre beve. 17. 17. Ma sale una candela. 18, 19, 47. Mila. Era per far scena, no? 69. una candela. Ti attacca con i suoi artigli. Candela di Pinepaltro. Io ho 27 danni. No. 10 danni. 10 danni. No. Sì. È quella il notore di Apple. Saluto. Poi quello su. Ah, quello su sfortuna. Quanta vita hai, Vez? 17. Vabbè, easy. Allora, 7 punti per i tappi. Cosa easy? Vabbè, adesso ci resusciterai tu. Speriamo. È uno solo, ne ho. Esatto. Beh, non stare a sprecarlo su di me. Sfortuna, la tua classe armatura? Passa. 14. Hai contato la luce? Il primo attacco ti prende, il secondo ti fa un critico. No. Ma non si becca un attacco di opportunità quello che va su sfortuna? No, perché? Perché deve passare, esce da un quadretto minacciato sia da me che da Varnistrand. Devi uscire dall'area di minaccia. Cioè, volendo ti possono correre intorno quanto vogliono. Mi concentrerei sulla parola, sono il master, quindi faccio quel cazzo che mi pare. Questa purtroppo è così che funziona. Questa purtroppo è proprio vero. Il primo attacco sfortuna ti fa 9 danni. Ah, il secondo, quindi vuoi fare invece attacco di opportunità? Allora ti becchi un attacco anche tu. Il secondo invece è un critico. Ci fa anche il critico. Si sfoga con Mario. E un critico anche su Giulio. Cazzo, coglione. Il secondo sono 15. Così. Quindi 24. 25 io. Beh, raga, io sapevo che fosse 15 più 9, 24. Buonanotte, Arci. E sei 25 danni. Che rimane. Buonanotte, Arci. Sicuro? Io conto 18. No, sei 25. Vabbè, non butto la armatura. 20. Il più 1 della luce vale ancora, giusto? Sì, sì, sì. Quindi 20 ti colpisce. Sì. No, non, sì. Non di dado, ovviamente, in caso non, di parità. Non di dado, ma se aspetti che lo posiziono e lo giro. Eccolo! No. Il primo attacco ti fa 5 danni, danni taglienti, e il secondo ne fa 8. No, non sono in ira. Sede un merda. Merda. Poi l'ultimo contro Pat. Capito, Giulio? Sì, cosa? Non sono in ira. Quanti danni ha fatto? 12. E mi prende. 17 non ti prende, sei sicuro? Sì, sì, mi prende, detto catta. Ah, ok. Avevo capito male. No, addio di 4. Ma il master che si sta bulleggiando, raga, ma vogliamo fare qualcosa? Sì. Ma, sono che, ma con l'acqua santa, se gli hai... Stai cercando, catta, la simpatia che hai perso. Esatto, mi è caduto un D4. Sono 7 danni. E tocca al primo Race a Span. Allora, dicevo, questo è assassino. Ah, no, non ce l'ha. Cazzo, Pact è un archivio. Buona, Marco. Pact. Pact, tu hai. Fatevi quattro... per un meme. Catta che cerca roba. Hai 4 punti ferita temporanei ogni turno. Quanti ne ho? 4 ogni turno. Devi parlare con Giulio, che è il mio gestore della linea telefonica. Cioè, scusa, ne avevo 8 all'inizio e poi ne ha 4 ogni turno. Perché non mi sì, fa per l'eroismo. Tutto? Maledetto. Ma si accumulano? No. Certo. Rega, fate degli screenshot, non me li fa fare. Sì, Giulio, fino a migliaia di migliaia. Era se avessi un green screen, catta, quanto sarebbe divertente. Ti potremmo mettere in un qualsiasi posto. Ma lo vado a prendere il green screen. Non l'ho più tirato fuori, tra l'altro. Qualcosa si è riuscito a fare. Cosa stai facendo? Mettere... Sembri John Travolta nella neve. Esatto. Sto cercando un dado. Intanto tocca a Pat che può fare quello che vuole. No, tocca a me comunque, non a Pat. Tocca a Race. Sì, a Race. E, allora, io mi sposto. Aspetta, mi sposto da solo. Ecco, bravo. Grazie. Furtivizza. Come cazzo si fa a spostarsi? Qualcuno mi sposta? Devi selezionare la... No, vorrei sapere distanze, però. Usare il metro. Come si dice pietà in... occhio, tanto un quadrato su 5 piedi. Non so come si fa. Ah, ok. Allora, spostami... Sì, lì qua voglio andare. Qui. Ma so, non fai dei furtivi? Sì, dobbiamo star calmi però. Scusami. Trickster, basta. Chi è? Allora, quello bagnato e quello di Sceo. Quindi devo fare gli altri, in teoria. Che musica potrebbe starci? Con Katta che cerca cose. Chi è il più utile di voi? No, sono tutti feriti uguali. Quello bagnato è molto più ferito. Vabbè, spariamo a quello bagnato. Mi sembra un po' sprecato, però vabbè. No, aspetta. Sprecato, no, altro, quello furtivo. Spara uno su... Ma tanto di mezza i dati. Ma è lo stesso. Spara uno di a quello su Vardistran, che Vardistran... Spara quello 17 Vardistran. Punti feriti. Fatto 5, o sbaglio? 5, 14. Mancato. Ma non hai vantaggio perché sei invisibile? Sì, ho vantaggio perché sono invisibile. Grazie, ma... Se non te lo ricordi tu. Ho fatto 12. 25. Colpito. Allora, lui di mezzo al cazzo, però io tiro... Quanto tiro? Un di 8. Tu 27 danni. Contro quello su Vardistran. Contro quello su Vardistran. E ovviamente sono visibile. Pop. Un puntato. Che musica potrei mettere per Katta che cerca? Il Ben Hill Show, non lo so. Quindi Katta 20 quanto... 6 diviso 2, cioè? 18. Ben Hill Show. Quanto sì, spazio ho io lì? Sì, ma ci mettiamo 6 anni a ucciderli così. Cioè, sono veramente 200.000. Vuoi sapere se puoi passare attraverso a lui? Posso trasformarmi lì? Sì, dipende in che cosa ti vuoi trasformare. Bravo, quella è la roba. Scusa, usa una forma animale. È certo che è una forma animale. Vabbè, in un orso si può trasformare. Bello. Vabbè, insomma, la dimensione huge beast va bene, no? Sai che cadi dalle scale, te lo dico. Fammi vedere quanto è huge. No, huge è grande, no? No, è large, è grande. Huge è enorme. Oh, esatto, fai qualche e poi scusi, mastini cazzo. Huge no. È così, è 15 per 15. Beh, ci sta. Beh, non ci sta. È troppo grosso per cadere. Sfonda il muro. Così sarebbe troppo grosso per cadere. Ma scusa, 15 per 15 significa che è un cubo, quindi arriva a metà altezza, ti mancherebbe. Può passare attraverso il nemico e fare no, dall'altra parte. Scusa, stavo così. Guardando Katta che cerca robe. Katta? Sì? A chi tocca adesso? Dai, che devo andare a letto. Wow, a te grazie. Tocca. Infatti pensavo stesso a te. Questi hanno fatto... Questa era Risk ha sparato, tocca dopo Risk c'è Atanas. Non l'ha ucciso però, vero? Non l'ha ucciso. Che avranno... 150.000 punti feriti. Quanto hanno secondo voi? Cioè abbiamo 80, qualche chance? 60, un'ottantina. E ha rigenerato già tutto? No, solo quelli che avevano beccato sulla palla di fuoco. Hanno beccato 16 danni. Dobbiamo bloccargli sta rigenerazione subito però. Atanas, tocca a te. Quello che ha attaccato... Sfortuna, è per caso uno di quelli che ha beccato il cono di gelo? Posso saperlo? No, lui è intonso. Ok, quindi è uguale. Allora attacco quello che mi ha attaccato. Ok. Ma possiamo tutti lo stesso? Sì, perché se no non c'è. Ma io ne ho due, cioè, nel senso, non posso focussare uno di quelli che sono già stati... No, puoi picchiare quello di Vardistran. Puoi fare così. No, è troppo... quello che attacca Vardistran è troppo... posso farlo così? Okay. Penso di sì. Sei il master, puoi fare quello che vuoi, Giulio. Va bene. Cioè, focussiamo tutti lo stesso, così lo tiriamo giù. A parte Garrosh, che probabilmente lo tira giù. Sì. Allora, faccio... il più basso è un 19. Ok, colpisci con tutti. Tra l'altro, Vez è un'arma magica, no? Sì. Sì, Vez. Sei sopravvivente. Beh, Vez, allora ammazzali tutti, cosa stai facendo? Sono. Non sta a me, Arci, sta a te, diventi una bestia grossa e stai lì fermo. Old person, prepare bottle, cooking biscuits. Quindi col primo attacco? Scusa se mi arrampico sui muri. 15 danni col primo. Ok. Che di mezzo. Fare una cosa che farò adesso, ho dovuto farla prima. 9 col secondo. 5, 9 col secondo. Sì. E 11 con l'ultimo. Ok. Quindi è... Mi sono 10 danni praticamente. Vabbè, faccio Action Surge, tanto c'è. Cioè... Yes. Fumble con uno? Non è vero, Giulio. Doppio fumble. Uno. Giulio ride. Uso la... Ed Inspiration. Inspiration. Oddio, Giulio, aspetta. Ok, non la usi. Perché no? Aspetta cosa, di morire? Vabbè, usala, che tanto te la dà di nuovo, cazzo. Nice. Hai usato questa Inspiration bene, eccoti un'Inspiration. Che falle. 18 più 9, 27. Colpito. 13 danni. Vabbè, dai, ha preso un po' di mazzata. Tanto. È molto mal ridotto. Ed era fortunato. Quello che ho trovato. Ne abbiamo 8. Sfortuna. Quindi qual è quello messo peggio? In questo momento è quello contro Vardistran, questo qua. Sì, tu ce n'hai uno. Tornano su però se non gli facciamo, giusto? Che tiro un Eldritch Blast contro quello di Vardistran. Brava. Da lì hai svantaggio, perché è un nemico entro 5. Fallo agli altri, Marco. Aspetta, avrebbe svantaggio senso. Comunque. Cioè, Marco disingaggia, disingaggio, esatto, fatto. E muoviti dietro Garrosh, così se uno degli altri si sposta per venirti addosso abbiamo un attacco di opportunità. Ah no, però lui però se disingaggia dopo non può fare gli Eldritch Blast, quindi... capito, ma se lo fa adesso c'ha svantaggio. Ma lui quanto ha? Ah no, però se becchi un attacco di opportunità rischi di andare giù. No, Marco ha 25. Ah, allora dai, prenditi l'attacco di opportunità. Ah, giusto, sì. Prendere un'altra opportunità. Proviamoci delle sbelle, ma sì, andiamo anche a guardare in Svizzera. Spostati dietro Garrosh. E fai gli Eldritch. Sì, vabbè, mi sposto nell'angolino lì. Ciao! Il tizio ti dà un'artigliata mentre te ne vai. 8 danni. Aspetta, uso la mia reazione per fare Cutting Word. Ok. 4, quindi vado a 19 di classe armatura sarebbe. Non diminuisce i danni anche? No, questo diminuisce per colpirmi. Per colpire. Lui però per colpire ha fatto un 23. Allora ciao. Ha tirato 24 col però diretto. Puoi fare ancora l'Eldritch Blast, no? Sì, sì. Vai, importante è quello. Vabbè, faccio sto Eldritch Blast contro il tizio davanti a Vardistan. Okay. Uno faccio 25 per colpire e per vedere qual è il mio modificatore. E 8 danni. Morto. Buono. Ma dopo quindi... ritornano su, sì, però, rega. Giusto? No. Il secondo blast va contro quello di Garrosh. Mm-hmm. Non c'è più quella cazzata della 3.5. Faccio 14 per colpire, 30. Quindi immagino mancato. Usa l'Inspiration. E dalla mia veste libero il mio gufo e lo mando a fare flyby contro quello di Garrosh. Ah, ok. E tira per colpire. No, flyby è da vantaggio agli altri, non colpisce. Ah, gli fai l'aiuto. Quello che facevi tu, che hai fatto tu per Handicat. Sì, usavo l'azione help. Non la chiamavo flyby in maniera molto... Vai, Patk! Ok. Cazzo, ti posso attraversare quello stronzo? Buonanotte, davanti. Arci. Volendo puoi scavalcare il parapetto per arrivare qua e poi fare quello che vuoi. Non so che cosa vuoi fare. Vuoi trasformarmi in un coso huge beast? Mm-hmm. Puoi scavalcare il parapetto e diventarlo qua. Arrivi qui. Ok, arrivo lì e divento... Bravo. Sistemalo, io sono un anchilosauro. E... Ma esatto, polimorfo... No, no, forma selvatica. Forma selvatica. E lo attacco. Prego. Quindi hai gli attacchi magici? Ho gli attacchi magici. Faccio un bel di 20, 17 di dado, più... Quanto cazzo l'ha successo? Più 7, 24 al colpire. Colpito. Hai colpito. Gli ho dato... Intanto devi tirare un dado con CD 14 sulla forza. Ok. Lo manca. Quindi è a terra prono e si prende 20 danni intanto. Magici sulle gengive. Ottimo. Questo sarà il prono. 20 danni. Trick. Ballac. Ah, Giulio, okay. Successo a 68 di vita. Ok. Ok, e questo era il tuo turno. Più 4 tutto temporanei. Quello che sai fare. Oh, per forza. Vardistra. Allora, ditemi una cosa, se io faccio un incantesimo, posso usare anche lo smite, secondo voi? Sì, sì. Ok, allora faccio, che è una bonus action, il Magic Weapon sull'arma di Garrosh, che ce l'ho vicino. Sì. Quindi diventa un'arma più uno, fino al prossimo turno quando mi smazzano. E poi faccio il mio attacco. Yes, hai quello che attaccava Sfortuna o quello che attaccava Garrosh, che è il più messo male. Allora, facciamo intanto su quello di Garrosh. Vediamo come butta. A 15. Cosa vuol dire a 15? Ma quindi hai vantaggio. Hai 15 di classe armatura da superare. Ah, ho vantaggio a colpire perché c'è il gufo? Sì. Vabbè, avrei comunque colpito, però... Vabbè, magari crittavi. No, non critto. 22 e non faccio lo smite perché tiro bene. 18 danni. 18 di tipo cosa magico. Sono magico. Ah, è l'arma pura questa, ok. 18 magici, vai a 84 più 8 fa proprio 82. Quindi saluta? Sì. Bene. Allora l'altro lo dirigo sull'altro. Dove faccio 18. Colpisce. Ok. E qua forse uno smite ci può stare. Che è di secondo livello. Quindi... E aggiunge anche un D8 perché è non morto. Quindi sarebbero 3 di 8, 4 di 8 diventano. In più, sì. Merda, easy quindi. Più i miei di 6. Beh, Pez, perché non li hai picchiati a sangue fin dall'inizio? Arci, sono le ultime cartucce che ho. Allora, devo lanciare la boccettina. Se li posso ritirare, grazie a Dio. Ok. No, prima lancio uno sguardo. Vabbè. Ad Atanas. Tirato male. Esatto. 13, 15... 8 sono 23, 30 danni. Però puttana. Buono. E di cui in parte sono radianti, quindi si blocca allora, la ricerca. Allora, ok. Ah, ok, vabbè, sì, non raddoppia mica. Ah, sì, sono radianti una buona parte. Basta che ce ne sia anche uno. Sì, sì, bene. E questo era Vardistran. Garrosh, hai un'arma più uno in mano. Ma sono morti tutti i tuoi avversari. Vabbè, ce ne sono altre tre. Ce ne sono altre. Vabbè, smazzuolo quelli che ho davanti. Prego. Vai su quello. Focussiamone uno, Sceo, cioè così lo tiriamo. Quello giù. Che ho ferito io, dai. Ma il vampiro. Vai, hai vantaggio. Che vantaggio? Perché il barbaro decide, può decidere di avere vantaggio, ma tutti quelli che lo attaccano hanno vantaggio anche loro. Miceo, il mio è prono, non è vantaggio colpirlo. Fa lo Star Quarks, sì. che non si è messo di merda. Okay. Okay. Vabbè, però esatto, non è vicino a me. No. Ed è contro Esauro. La tua è una più uno, quindi hai un più uno a colpire e un più uno ai danni. Esatto. Quindi 23 a colpire e 8 danni. Hai messo il più uno? Sì. Madonna. E non l'ho caricato, vabbè. Quindi faccio solo il secondo attacco semplice. Sì. Ho vantaggio a tutti o gli attacchi solo il primo? Ogni volta... Solo il primo. Solo il primo? Vado. Attacco, vabbè, 18 anche se non ho vantaggio. Colpito. 12 danni col secondo. Hai messo più uno? Sì, bravo. 50. E non ha avuto lo spazio per caricare, immagino. Meo. Poi? Cazzo, rega, dopo Garrosh? Sta loro. Rega, mi spengono la luce anche a me. Ebbene, anche devo andare, rega, tra poco. Faccio l'ultimo turno. Cerchiamo di non farci ammazzare. Per cui, dai, fate questo sforzo titanico. 10-15 minuti. Dai, sta a loro. Dicevo, Katta, non ho avuto lo spazio di fare un passo indietro e caricare, no? Ma scusa, mangia luce spenta. Vabbè, ormai non l'hai fatto, dai, andiamo avanti. Avresti potuto farlo. Ma allora, il vampiro spaventato è andato per sempre. È un minuto, un minuto. O finché subisce danni. Allora, sono... Questo fa 12 danni ad Atanas. Non tira neanche, gli dà solo i danni. No, li ho tirati tutti. ma non tira neanche i danni. Fa. Questo, fa... questo fa 10. Oh, non tira neanche più per colpire. Cioè. Ho fatto 20 danni, lascio. No. Quelli erano molto alti, quindi sapevo che ti avrebbe colpito. Quest'altro fa 5 danni a Vardistran. Sì, dai, facciamone 17 ha colpito? Uno no, l'altro sì. 5 danni, devo tirare la concentrazione. Poi vediamo girarsi. Miki, dimmi un numero. Ha il tuo P4 ed è sul Costituzione e devo fare almeno 10? Sì, allora lo faccio. Ho fatto 11 più Costituzione 13, quindi mantengo. Sceo, continui ad avere l'arma magica. Hai anche il tuo l'altro. P1, Vez. Quanto hai in carisma? No. L'altro si rialza e fa carisma. Era che no, il tuo più è bonus dei tiri salvezza, insomma, anche a questo. Sì, più 3 più 1 della luce e la costituzione è più 2, quindi più 6 complessivo, 7 più 6 13. L'ultimo fa 9 danni all'allosauro lì. Tocca a Race. L'allosauro. È un anchilosauro, con quanto mi ha preso? Scusa, ha fatto 24. Non mi prende Katta 24. Allora toglietele, non so che dire. Qualcuno, no, scherzo, mi ha preso. Segna, Giulio. Su chi sto tirando? Su chi devo tirare, Regiz? Hai tre bersagli. Ma fai scelto? Quello da Arci, dai. Tiro su quello su... Il mio hai vantaggio, Salla. Perché ho vantaggio? È pronto. Si è rialzato. Allora è l'unico che non do, a cui non devo tirare. Perché c'è un cane che mangia lo yogurt di Goji? Ah, vai a distanza. Lo yogurt di Goji? 18. No, quello è finito, era tremendo, raga. Tanto si è rialzato e costava tipo 10 euro. L'hai colpito. Ok, bello questo 1. Acido. 13 e 18 danni. Ok. Con un bel 1 di dado. Ma fai come cazzo? Che mai catta? Tocca ad Atanas. Poi sfortuna e poi a te. Ok, io attacco quello su contro. Vediamo. Dai, regà, devo andare a nanna, su. Non pensiamo successi. Cazzo, ho fatto un altro 1. Non dobbiamo finire la prossima volta. Vabbè, ma l'abbiamo fatto quasi. No? Comunque ho fatto gli altri due attacchi, 15 e 22. Manca uno. Abbiamo... Ma se deve andare, deve andare. Vabbè, se deve andare, farà il combattimento lui la prossima volta. Se lo volete giocare voi, sono anche 23. Non è un problema, tanto è grosso. Quanti okay. Nemici mancano, raga? 3. 4. In un turno è finito. Beh, uno è giù. Sfortuna. Ok, prima mi sono sbagliato con flyby, quindi quello che fa è permette di disingaggiare gratis. Vabbè, tanto l'avrei preso comunque, non cambia, dai. Sì, sì, quindi il gufo va da aiuto a quello di Atanas e poi vola via. Whee! Va bene. Chi? E quindi io do un vantaggio. E uso due Eldritch Blast contro quello di Vardistar. Vai. Il primo è un 17. Sì, e fa 8 danni. Il secondo è un 25 e fa 14 danni. Siamo vicini. 14. Muore. Vai. E allora io mi prendo dei punti ferita temporanei perché ho ucciso qualcuno. Bravo. Sì. Quanti ne prendi? Tocca a te. Tocca Katta. Quanti ne prendi? Di qual è quello più messo, messo peggio? 10. Quello che è davanti. 10 punti feriti temporanei. Anche rispetto agli altri? L'altro è in tonso. Allora focus su quello che è davanti. Eh beh sì, 15 di dado più 7. 22. Colpite. Tirami sulla forza. Quanto deve fare? 14. Lo passo. Beh, sta in piedi e si prende comunque sulle gengive 18 più 4, 22 danni magici. Anche c'è sto vampiro che scala la roba contro un anchilosauro. Beh, se, diciamo almeno stordito dalla cosa, poteva esserlo. Ok, te lo sgragnocchi. Guardi, no, in realtà lo prendo a codate. Morto? Ok, morto. Ai. Ah, è morto il mio? Sì. Vai, vado. Vardis. Manca uno. Attacco, dai, quello dai, là. Su. Allora, ho fatto 18. Colpito. Direi di usare l'ultimo smite. Così anche questo non rigenera. Si prepara Garrosh. Faccio un riposo lungo. Ha tirato bene stavolta. Adesso rega, rimango anche l'osauro per... fatto male questo. Rimango anche l'osauro per 9 ore, sto cazzo che cambio forma. Mi giro così per il castello. Passi per le porte. Ci penso io a passare per le porte. 14, 21, 26, 4, 33 danni. Mi immagino exettando. Dove ci sono i radianti, no? Aspetta, c'è il secondo attacco. Penso io adesso ad aprire le scatole. Che è 21 a colpire. E sono... Ah, li posso ritirare entrambi. Ottimo. 9, 7... Merda, è vero, adesso con sta 16 coda... 16 danni. Sta coda mazzosa, vado a spaccare tutti i sarcofagi. Finito gli incantesimi. Garrosh c'è ancora il più 1. Ho ancora l'arma magica. Sì. Continuo con attacco incauto. Hai lo stesso vantaggio. Perché? Il gufo. Uccidi! Ah, allora non faccio attacco incauto, ma ho vantaggio. 14 a colpire, mannaggia, no? Un vantaggio hai fatto. Più uno, più uno, allora, dell'arma! Più uno dell'arma! Più uno, 15! Arbitro! 15 colpite? Sì. Madonna, 8 danni. Secondo attacco, quindi ho sempre vantaggio. Dai, fai qualcosa di tutti più. Gli attacchi. No, solo, solo al primo. Ah, aspetta allora. 19. Ripeto. Sono. Minchia, che schifo. 6 danni. Ma come 6 danni? Ma non aggiungi la forza? Che? Più 4. Ho tirato 2. Minchia. E non c'è il più 1 dell'arma? Hai ragione, sì. L'ho dimenticato. 7 danni. Scusa. L'ho dimenticato. Scusa, hai ragione. Stavolta hai ragione. L'ho dimenticato. 7 non 6. Con quel punto è morto. No, arrivano 9 danni a Vardistran e tocca a Race. Allora io aspetta, sparo Constitution all'arma passato. Di... no, cioè a quello che manca con l'anchilosauro. è solo uno. 22. Colpito. Madonna, devo far tutto io. 16, 6, 22, 27 danni. Perché sono proprio. Però divisi? O è magico? No. No, divisi. Atanas. Che sono proprio, infatti. Sono proprio un'inculata. Fai un attacco. Allora, uno non lo becco. Ho fatto 14. Gli altri, ah no, credevo con uno non lo... ho capito, gli avevo già tirati tutte e tre. 11 più 14, 25 danni. Morto. Ah, bravo. Bene. Merda, era super easy, che lamentosi che siete stati. Ora giù, se volete, c'è l'altro, se vogliamo ammazzarlo adesso. Perché... che devo andare a nanna. Ciao, buonanotte. Buonanotte, Arci. Rimando anche uno Sauro. Ciao. Ma perché Vez ci ha reso le armi magiche? Allora sì, senza le armi magiche io ci ha reso, ti ha reso. A te, ma tu hai fatto pochi. Roberto Sauro poteva farseli tutti da solo praticamente. Sarebbe stato più utile una magica. Sì, lo so. Però il discorso era che... No, va bene, scherzo. No, ma ti spiego, perché io l'ho fatto a Sheo perché... Beh, intanto non pensavo facesse così cagare Sheo, mi pareva che l'altro facesse più di più. Ho tirato bassissimo. Sì. E poi, questo e poi a mia difesa. No, e poi soprattutto perché così almeno faceva un turno, perché sennò magari io dopo mi arrivava la mazzata... E andavo giù, oppure la perdevo, capito? Per quello. Sì, perché... Ho tirato basso ai danni perché non sono andati in ira. Perché mi manca un'ultima ira prima di un riposo, me la sono tenuta. In fondo poteva. Che combattimento pensi di fare ancora? Cioè, se facciamo un altro... Te lo fai te il combattimento, Sheo, te lo dico. No, in realtà allora... Io non pensavo di fare neanche questo, quindi... Il mio personaggio in realtà batteva in ritirata. Comunque, Katta, perché... ricordati quanti turni sono passati, perché se noi adesso vogliamo andare giù e smazzare l'altro, lui ha un... Ok, lui ha un minuto che... Cioè, vabbè, cambia niente perché poi lo andiamo a smazzare, però insomma, senti questo. Ho segnato tutto. Bene. Buonanotte e buone volte. Ciao. Ok, ciao. Bene, grazie. Salutiamo quelli che devono scappare. Ciao, Katta. E buonanotte a tutti, grazie per averci seguito, continuate a farlo, canali social di Tycoons & Dragons e RipGDR. Questo era l'episodio numero 69 della maledizione di Katta. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, dove giocheremo a Umbra Imperi, dico bene Giulio? Sì. Benissimo. È vero, è festa. Vabbè, Pasquetta. Pasquetta. No, era una gag, in realtà ci sono, non è... Sì, è festa. Non vogliamo fare la sessione di Pasqua. Così, non la facciamo. E... Marci, non poteva fare tipo un dinosauro figo, tipo questo. Qual è questo? Te lo dà? No, chi è? Il Quetzalcoatl. Quello? Challenge 2 è una merda, però fa ridere. Va bene. Quel cazzo con le ali, che cos'è? Se volete che Arci faccia un altro dinosauro, o scrivetecelo nei commenti, che non ho guardato, ma avevamo i soliti Ambra Masotti e Domenico De Francesco, che salutiamo, e quindi salutando anche Katta che ci ha abbandonato, buonanotte a tutti e alle prossime sessioni con Tycoons & Dragons e RipGDR. Ciao!